Daniele? No, giusto, sono Gianni. Ciao Gianni. Sì, vabbè. Ho fatto la roba. Ehi, l'ho attaccato adesso. Stai controllando, se ne è stazionario. Ce devo capire qualcosa, giù, l'ho appena collegato e mi ha spiegato a grandi linee come funziona, ma devo, insomma, devo inquadrarmi meglio, insomma, come funziona. Ah, ok, ho capito, va bene, dai, sì. Basta fare un paio di passaggi e te ne rendi conto. Metti a 10 watt, metti la portata, metti a 10 watt e SVR e così poi vedi, poi ti sposti verso power e sai quanto watt ci sono. Guarda, adesso praticamente ho spostato il commutatore verso watt. Allora, ci sono due scale, c'è una scala sotto che va da 0 a 10 nello strumento, e poi c'è la scala sopra che va, che dovrebbe essere le stazionarie. Adesso l'ho messo in posizione watt, praticamente in questo momento sono quasi, ci sono picchi positivi che sono quasi sul 5. 5 watt, dunque, quasi sul 5 watt, e picchi positivi, e quindi va bene, va, puoi mettere l'altra watt a costo o SVR e ci dà le stazionarie. Ho capito. Praticamente, allora, ti dico il modello del rosmetro, magari lo conosci. Allora, il rosmetro è della ZG, modello TM999. Sì, ce l'ho io, che è simile a quello, uguale. Io il TM1000, ma diciamo che sono simili, sono quasi uguali, per cui non... Metti su SVR finale stazionale, prima cosa però, la freccetta, la frecciatina con lo scala, centrata nell'ultimo segno del fondo scala, centrato lì, lo metti, prima va accordato, e poi metti SVR e schiacci di nuovo e ti dà le stazionarie. Allora, Claudio mi ha spiegato, allora, c'è un commutatore. A destra c'è scritto DIR, a sinistra c'è scritto REFL, REFL, e sotto c'è una manopola con la scritta SET. Appunto, tu con la manopola accordi lo strumento, lo porti, che la freccetta ti arrivi a fondo scala sull'ultima linea del fondo scala, centratissimo, lo devi mettere. Poi metti quello dei watt e ti dai watt, metti quello di RF e ti dai le stazionarie, cioè il RF e ti dai watt, mentre invece l'altro SVR ti dà le stazionarie. Ho capito, volevo riuscire a capire praticamente come, cioè, quel commutatore sarebbe stare in posizione DIR o posizione reflex. Reflex sono la stazione radio, vuol dire radiofrequenza, e quella è la potenza. L'altra invece sono le stazionarie, però prima tu devi accordare lo strumento, girando una manopola, porti la freccia dello strumento, lo porti a fondo scala, proprio centrando l'ultimo trattino del fondo scala, perché va anche oltre il fondo del trattino, capito? Tu lo centri perfettamente al trattino, lo centri, e così ti dà poi le misurazioni, portando i due commutatori, o uno o l'altro, capito? KK, ok. Adesso vediamo un po', adesso, allora, qua sto agendo, ok, quindi praticamente qua non sto smanettando, e qua non sta praticamente facendo assolutamente nulla. Adesso, Giulio, guarda, adesso praticamente ci sono due manopole con la scritta Tune, una sopra l'altra. Adesso praticamente sto muovendo quella di su, Tune, praticamente, mi devi dire che cosa succede. Chiaramente presumo che sia passata la potenza, no? Quindi adesso la rimetto come era, la rimetto a fine corsa, adesso tocco quella di sotto, vediamo un po' cosa succede. Ok, perché? È cambiato qualcosa? No, qui non succede mai niente, qui non può succedere niente. È lì che ti dà lo strumento, ti dà la misura lì. Col tunnel serve per accordare a fondo scalo, siccome lui è anche un accordatore antenna, quello lì, se ci sono poi eventualmente stazionarie, dopo che tu hai fatto quelle misurazioni, con quello del delta tunnel devi accordare e ti abbatti tu le stazionarie, capito? Quello lì non è solo l'interrometro, è il vattimetro, è anche accordatore antenna. Ho capito, dai, adesso magari controllo su internet se trovo qualcosa di più specifico, perché è un apparecchio nuovo e non lo conosco. Va bene, d'accordo. Comunque devi fare così, devi portare a fondo scala prima la frizza, la devi portare sul segno, sul trattino finale della fondo scala. Una volta che hai messo quello, tu metti RF e ti deve dare il watt, ti deve dare. Se metti invece l'altro potenziometro ti dà le stazionarie. Però se le stazionarie sono eccessive, con l'altra manopola tu non fai altro che abbassarteli e te li porti a 1,1, 1,2 massimo. Ecco come funziona, perché è accordatore antenna anche. Ok, adesso ho capito, dai. Sì, vabbè, come tutte le cose nuove hanno bisogno di essere conosciute, quindi adesso piano piano, niente, giù, mi ci appento e facciamo tutto, dai. Va bene, comunque controlla sul computer, che già ci sono sicuramente le spiegazioni. Ok, adesso entro su internet e scarichiamo qualche informazione su questo ZGTM99. Troveremo qualcosa, dai. Gli altri tutti andati sono? Sì, Daniele si è allontanato, si vede. Scusi, mi sono andato io e poi alla fine ci siamo persi. Sì, su comunque accordatore dell'antenna ZG9999 e vedrai che ce la trovi la spiegazione. Che me ci sono! Ciao Daniele! Vai Daniele! Già sono sempre qua. Va bene, preso l'hai il rosmetro già? Sì, ma ho trovato Claudio in verticale. Allora, è uno ZGTM999. Cava! Ma l'hai già collegato? Sì, già collegato. Chiaramente devo trovare delle informazioni, insomma l'istruzione per usarlo. Perché Claudio a grandi linee me l'ha spiegato, però chiaramente anche se è una cosa abbastanza semplice non voglio fare danno. Danno non ne fai. Cos'è quello che c'ha tre pomelli? K ne ha due sulla sinistra, uno sopra l'altro con la scritta Tune, poi ne ha un altro in centro con la scritta Set e sopra c'è un commutatore con due diciture, a destra DIR, a sinistra Reflection, una cosa del genere sicuramente, Poi tra le due manopole c'è il commutatore 10-100 watt, un commutatore sotto SVR watt e poi sotto il tastino on off. Quello mentre lo lasciano su 10 watt. È già sui 10. Adesso col tunnel vai al fondo scala, mettila sul tastino rosso del fondo scala. Già fatto. Ecco, adesso tira su il commutatore e ti dà una misura, o una posizione o un'altra, o per il watt. Se RF vuol dire watt, vuol dire lì, radiofrequenza vuol dire praticamente. Se tra l'altro sono le stazionarie. Adesso nella posizione che si trova, prima in una posizione e poi nell'altra, e ti dà le due misure. Guarda, adesso come si dice? Aspetta, Ok. Faccio prima a fargli una fotografia e te la mando giù. Vabbè, d'accordo. Va bene. Poi con l'altro pomello uguale a quello tune, quello lì è l'accordatore antenna, se le stazionarie ti risultano troppo alte, con quelle te le abbatti tu a modo tuo. K. Sì, e poi mi vedi, lo sto guardando qua. Poi quel commutatore SVR sono le stazionarie, se lo giri a sinistra. Se lo giri a destra dove c'è la W, quello ti dà il watt, e c'è la doppia scala. Questo l'ho capito, questa è la cosa più semplice. Sì, vabbè, adesso mi scaricherò le cose da internet e vediamo, dai. Cappa, puoi schiacciare, l'importante è mandarla a fondo scala. Lo mandi a fondo scala, lo regoli e poi da lì con tutti questi commutatori sai le varie impostazioni della tua antenna. Va bene, ok, dai. Ci siamo. È semplice, non c'è niente di che. Giulio, adesso ti mando un apparecchio che ho io, uno strumento più che apparecchio. Va bene. Aspetta, che prima devo trovare WhatsApp. Che trovo a mandare, l'altro giorno me ne sono dimenticato. Aspetta, adesso ti faccio la foto in diretta, guarda. Se l'hai conosciuto questo apparecchio. Guarda, te l'ho mandato. Ok, adesso lo guardo. Gava, te l'ho mandato, dove mi hai mandato la tabella delle frequenze. Guarda il testo come è stato scoperchiato, mi ci ha mandato la foto. Guarda com'è. Gava. Aspetta un secondo. Adesso proviamo così cosa dice. Anda per vera. Questo cosa è così, l'avevo conosciuto questo cosa, io, CBR10. Quello è un reperto storico, vai giù. Tu ce l'hai sempre questo? Sì, te l'ho fatta adesso, te l'ho fatta. Ce l'ho qua su. Ah, ok, no, ma questo funzionava bene. Funzionava bene questo. È che lo stesso ancora, non ci ho mai capito, cioè questo tastino, REF, FVD, sicuramente ogni tanto mi intrippo, REF sicuramente sarà da il settaggio, LFVD sicuramente poi tira le stazionarie. No, cioè con quel lavoro qua, tu lo mandi a fondo scala, lo mandi, no? E poi te lo sposti il contattino, se no avrebbe due misure, sia le stazionarie o il water, secondo dove metti il tattino. Gava, come sta risuonando l'antenna, dai? Loro in inglese è il ref, ma sarebbe il riflesso è l'antenna, là, in italiano. Sì, il ref, sì, il senso. Radio frequenza vuol dire, in italiano radio frequenza vuol dire. Giulio, ti ho mandato la foto? Ok, adesso la vado. Adesso tutte le foto a Giulio oggi. L'ho mandato anche a te, Daniel, su Telegram. Eia. Aspetta, mi sono perso. Mi ha mandato qualcosa. Giulio, ancora mi è arrivata la foto, Preccese. Avanti, buongiorno, Massimiliano. Buongiorno a tutti. E allora, che si dice? Che si dice? Niente. Niente di che. Aspettando la pappatoia, no? Anche qua. Va bene. Ciao Massimiliano, buongiorno. Ciao Gianni, buongiorno. Mi sono trovato con Claudio in verticale poco fa. Mi ha dato lo strumento, il rosmetro. Gappa. Buono, va bene. E come si è messo? Ascolta, vabbè, io adesso sono da un po' che ho bisogno di rinfrescarmi la memoria. È un ZGTM 999. Lo conosco, ma non ce l'ho presente. Sì, vabbè, adesso lui a grandi linee mi ha detto un po' il funzionamento, però adesso ci devo smanettare. Praticamente ci devo smanettare io. E niente, sono tre regolazioni da fare, due pomelli con la scritta tune e poi praticamente la regolazione del fondo scala dei watt e sopra c'è un commutatore con la scritta DIR e poi sulla parte sinistra Reflection, REFL. Aspetta che mi sto prendo, ecco qua. Ma ti vedi, guarda che ti ho mandato una fotografia del tetto che è stato scoperchiato dal vento stavolta, via Sicilia. Ah sì, io l'ho visto, c'è anche su Facebook. Ah sì, ho capito, intanto ti saluto, vai. Sì. Ah, ecco qua, si mi è arrivato, aspetta un attimo. Allora, oh Jack, tu devi portare quel cursore intanto in on, quello dove c'è scritto off e on, no? Lo porti in on, lo metti in scala 10, poi l'altro cursore lo porti in SWR. Ok? Ti stai ascoltando? Sì. K. Poi ti porti quel cursore dove lo metti dove c'è scritto ref, cioè riflessione dall'antenna. Ok? K. Poi ti schiacci la portante e col pomello dove c'è scritto 7 lo porti a fondo scala. Ok, lo faccio adesso, eh? Fatto. Ok, allora quando l'hai fatto poi lasci tutto così e il tastino dove c'è scritto riflessione lo porti in direzione. Cappa Rogero. Ebbene, cosa ti schiacci? Quando schiacci cosa ti segna la lancetta? Quando schiaccio va a fondo scala, proprio proprio fuori fuori. Mi stai visibile stazionario, non passi. E prova a mettere allora il pulsantino, aspetta, allora, il pulsantino quello on e off, è quello che ti fa l'accordatore dell'antenna, mettilo in off. Cappa. Sempre fondo scala ti segna. Positivo, positivo. Mettilo in watt invece quel pulsantino. Fatto, fatto. Sempre fondo scala. No, adesso è praticamente dovrebbe segnarmi 4 watt. Ti sta segnando i 4 watt. Il pulsantino dove c'è scritto riflessione e direzione, dove ce l'hai? Su direction. Ok, rimettilo in riflessione. Messo in riflessione. È sempre fondo scala che segna? No, no, è sempre sui 4. Adesso, scusa Massimiliano, adesso con l'altro pomello che hai, se te hai 4 stazionarie, abbassate le 2 stazionarie e te li porti quanto vuoi tu, a 1 e 1. Sì, ce li ha, a 1 e 4 le stazionarie. Adesso, per abbassarti le stazionarie, devi rimettere in posizione on il pulsantino di sotto, quel cursore, lo metti in on, e con le due manopole ti abbassi le stazionarie. Ok, ok. Con quale manopole? Dove c'è scritto tunnel? Sì, però il cursore lo metti in on, se no non ti funziona il tunnel, capito? K, ora ci provo, dai. Vediamo un po' cosa succede. Dimmi se sta cambiando qualcosa. Allora. Non vedo variazioni di sorta. Qua già sta cambiando perché qui da 9 si è sceso a 7. Ah, ho capito, allora sta variando anche la potenza, giusto? Se mi gioco sta variando la potenza, tu lo vedi dallo strumento. È una cosa nuova, abbiate pazienza, quindi ci devo capire qualcosa. Sì, ma quando tu muovi le due lancette, lo strumentino si muove la lancetta o rimane fissa? No, no, già viaggia, ci sono due scale, Massimiliano. C'è una scala sotto che va da 0 a 10, poi c'è la scala sopra, SVR da 1 a 5 e poi lì c'è il simbolo dell'infinito. Ecco, ok, la tua lancetta dove si ferma? Fammi capire. Abbi pazienza un attimino, aspetta un attimo. Non si è accordato perché sei Santiago 7 qua. Vai, faccio aspetta, rimetto tutto come era prima. Così sei 9, sei diventato 9 di nuovo. Quindi vuol dire che così è accordata l'antenna. Cappa, adesso ho messo tutto come era prima. Oh, quindi adesso tu, il tunnel, quello lì, non lo toccare più. Staccatelo proprio dove c'è scritto on e off, lo metti in off. Cappa Rogero. E vai col pulsantino in SWR. Ok. Ok? Metti l'altro pulsantino in direzione. Ok. E col pomello di sotto schiacci la portante e lo porti a fondo scala. Ok. Aspetta. Di russo. E non parlare quando fai queste prove. Adesso, senza toccare niente, sposta il pulsantino in riflessione. E beh, dove si ferma quella lancetta? Sorpassa praticamente l'uno, è sopra la prima tacca. Nella scala di sopra, supera l'uno e l'altro e si ferma nell'altro trattino piccolino? Sì, la prima tacchetta, quella piccola, Massimiliano. Ok, quindi sei a posto, perché tu c'hai 1 e 1 di stazionaria. Roger, K. Quindi l'antenna, Giulio, l'ha accordata. quindi l'antenna è buona perché da 7 qua faceva, da 7 è passato a 9, quindi l'antenna se l'ha accordata, il stazionario ne ha 1 e 1. Sì, ma è così, infatti è così. Vabbè, dai, comunque, lui non lo conosce perché non l'ha mai usato, e dunque, ma già lo capisce senz'altro, poi piano piano già se ne rende conto da solo. Tutto si tratta prima di sintonizzarlo, di accordarlo bene, perché sennò le misure sono sballate. Ma sembra che già l'ha fatto, adesso se, perciò va bene così. Hai capito, oh Gianni, scusa, sto ping pongo, Daniele. Allora, tu adesso ce l'hai in SWR, invece se ti vuoi controllare i watt, ritorni e fai lo stesso coro, metti il pomellino in watt, il tastino lo porti su il watt, metti l'altro pomellino, l'altro tastino lo metti in direzione, schiacci la portante, te lo porti, ti fai il 7 col pomello di sotto, ok? E poi te lo sposti in riflessione e ti guardi la scala di sotto e ti dice quante watt sta uscendo la radio. K. Fallo. Allora, qua mi segna intorno ai 4. Quindi la scala di sotto ti stai guardando? Eia, positivo. Ok, quindi stai andando con 4 watt. È facilissimo, hai visto? È facile usarlo questo coso. Una volta che tu quello ti accordi l'antenna, è bello perché questo ti fa anche l'accordatore di antenna, se c'è le stazionali te li abbassi. Capito? Sì, va bene, c'hai 4 watt e stai andando con un 1 di stazionali, è perfetto. Di lusso, dai. Sono contento, dai. Vabbè, ti ho chiesto l'aggancio su Facebook, ho visto che me l'hai confermato e niente, grazie. Prego. Solo che non riesci a mandarmi una foto, Messenger ce l'hai. Ho ripristinato WhatsApp, siccome ho dovuto reinstallare tutto nel telefono, tu c'hai il mio numero, se mi fai uno squillo me lo memorizzo di nuovo, Massimiliano. Hai perso il mio numero di nuovo? Te lo spiegavo, forse tu non c'eri. Ho dovuto formattare il telefono, insomma, l'ho rimesso in sesto e quindi alcuni numeri li ho recuperati, però mi manca il tuo. Adesso ti faccio uno squillo, quindi c'hai anche WhatsApp poi? K. Ok, ti ho fatto uno squillo. Ehi, ha ricevuto. Ricordati adesso, se tu dovessi mettere lì un linearetto, ricordati con la scala da 10 watt lo devi spostare a 100, ok? Se il linearetto che metti è entro i 100 watt, giustamente. Se no quel rosmetro non va bene. Claro che sì, ovvio. Comprendo. E guarda, ci metti un bel 747 e si è a posto. Aspetta. Vabbè, mi rimemorizzo il telefono, così ti mando la foto e ti faccio vedere sia il rosmetro che l'apparato. KK, vabbè, il rosmetro già lo conosco. Te lo stavo spiegando, c'avevo la foto anche davanti, l'ho guardato su Google. Avanti, Daniele. Gara, un'altra cosa fatta. Anda benemeda. Ok. Almeno così si tiene tutto sotto controllo e non c'ha problemi. Poi se c'è stazionale basta che salga la lantenna e muove appena quello stilo e l'accorda subito. Ma non è la stazionale, è 1-1, quindi no, stazionale non ce n'è. E oltretutto, Daniele, quel rosmetro che c'ha, volendo, fa anche l'accordatore, oltre che dal rosmetro, quindi se la può accordare da lì direttamente. Ma fino a 1-3 sei tranquillo, là, con 4 watt, tanto poi non è che hai tutta questa grande potenza. Già va bene, già era mezzo accordata pure quell'antenna. Io lo stesso 1-1 ne avevo di stazionali, quando l'avevo sistemata. Campa di rosmetro, va bene. E Giulio che fine ha fatto? Sono qua, sì, no, ma è così infatti, tutto quello che gli ha detto Massimiliano è giusto, è così, in effetti è così. Da notare che se domani ci mette un po' più di potenza o Gianni che sta aumentando, non ti preoccupare se magari anziché 1-1 di stazionare se ci sale 1-2, anche 1-3 per dire. In quel caso se non potresti aggiustare tu a 1-1, come appunto stava dicendo anche poc'anzi il Massimiliano, se la regoli tu, perché è anche accordatore d'antenna, come ti avevo anche anticipato io prima ancora. Va bene. conversione fatta, perfetto. Riprende, ma si vediamo. Sì, ma poi è facile, dai, non, cioè, una volta che c'hai ce l'hai lì davanti, vabbè, per lui è sempre una cosa nuova, perché giustamente, ma è facilissimo da usare, dai. Sono giusto a toccare due o tre cosettine, una volta che ti fa il set è facilissimo. KK, vabbè, quella da incrociati magari sarebbe stato meglio lì, perché metti a 10 watt, boh, non deve toccare niente, accorda da solo, però. Io c'ho il coso, come Rosmetro c'ho il Daiwa, l'801 HP3. Quello è più professionale, Massimiliano, quello è di lusso veramente, quello è perfetto, la misurazione che ce l'ha quello è perfetta, non è come la ZG. Io ho il TM1000, e poi ho sempre la ZG, e poi ho il 340 anche della ZG. E il 340 ha misura addirittura anche l'HF, per dire, no? E va bene, e non ho problemi, non ce ne sono, perché va arrivare fino a 30 MHz. Va bene, va bene. Poi ho anche un altro piccolino da macchina, diciamo così, ma quello è piccolissimo. Ma comunque anche quello funziona esattamente, perché ho visto che utilizzando tutti e tre, le valutazioni che ho fatto io, si equivalgono, per cui già funziona bene anche quello. Mi prendi? Sì, va bene, va bene. No, io ho lo stesso, ne ho un altro piccolino, c'ho un accordatore anche. E poi c'è anche quello che ho mandato la foto, io uso quello di sotto in genere, ma l'altro mi fa anche le altre frequenze, capito? Per farti capire. E alla fine è grande quanto il Daiwa, anche se è ZG, ma funziona bene. Ma se ti ho mandato la foto? Sì, sì, ho visto. Va bene, va bene. Hai visto la radio, sì? Sì, ho visto. Piccolina. Va bene, tanto. Già va bene anche così, so già, tanto no, vabbè che non c'ha FM, non c'ha nulla, però per fare una chiacchierata, anzi guarda che per la radio che sta uscendo anche troppo bene. Va benissimo, adesso ti mando anche la foto dell'antenna, così ti faccio vedere come l'ho piazzata. Manda. Avanti Giulio. Hai visto la foto giù che ti ho mandato? Sì, mi sono allontanato, lo guardo dopo, Massimiliano, mi sono allontanato un attimo dal telefono. Sì, aspetta, scusa un attimo, mi sono allontanato di nuovo dal microfono. Cappa già, vai, vai. Ecchi, ci sono. Vento, ne tira da quelle parti, Massimiliano. Cos'è? Ho detto vento, ne sta tirando. È abbastanza. Oh, Iuia. Casino è oggi, per carità, speriamo che si calmi subito. Davvero, Guarda, niente, giro una foto, però i due che vedi dietro, i due PL non sono agganciati, sono agganciati al commutatore della Daiwa. Capo di Rosmetro. Ti è arrivata poi la foto che ho mandato ieri, quelle cose uno sopra l'altro, sì? Sì, ti ho anche risposto. Vabbè, sono sganciate quelle. Gala, ecco, viste, arrivate. Io uso quello che c'è sotto, là. E l'altro fa sia, diciamo, la 27 che le ULV. Gaba, bello, anche io me ne avevo procurato uno di questi, a pari modo me lo prendo. Uno smetto così, cioè questa è la ZG, il 202. Però a me che questi la ZG, la vita sicca non mi ispirano. Guarda Daniele, io ti dico una cosa, io per avere questo Daiwa, piano piano, a 10, a 5 me l'ho messo da parte, tanto ha già detto, mi è inutile comparare rosmetrini da 2 lire, me lo prendo buono e boh, io questo l'ho pagato 160 euro, questo della Daiwa. Però arriva a 3 kW, illuminato, ti fa il PEP, è perfetto. Lo so, Massimiliano, è bello strumento, è anche abbastanza affidabile. E questi la ZG funzionano per un po' e dopo un po' iniziano a dare i numeri, non so perché. Ne avevo uno anni fa, lo stesso, cosa c'era? Le doppie manopole, uno di 7 e l'altro per regolare i watt. Ed era impazzito. E a chi non segue, quelli della ZG, capito. Ah, ecco, aspetta, mi ha mandato le foto Gianni. Gala. E quindi Gianni che? A posto? Sembra di sì. certo, se in quel palo ci metto davanti vado lì. Claudio ha visto la posizione ma e mi ha detto che sono in una posizione molto vantaggiosa. Sì, io venditi qualcosa già, ti prendo la radio come si deve adesso. Vabbè, adesso rimaniamo così, poi già sono sicuro che arriverà qualcosa di buono, dai. È una bella radio lì, che c'ha un po' di canali, c'ha le FM, c'ha le bande, si è a posto da lì, a voglia. Già arriva la radiolina bella, già arriva. Venditi la moto, trasformala in radio. Devo andare a recuperare prima la moto. Oh no, Massimilia. Ma infatti, vabbè, il giubbotto venditi. C'è il giubbotto ma c'è anche la moto a Kawasaki, quindi dobbiamo recuperarla e portarla a domo. Guarda, giubbotto ti ricavi l'antenna e dalla moto ti ricavi la radio. Intanto anche il vecchiotto come tipo di moto, quindi. Magari ti mando le foto così te la faccio vedere. Ho visto su Facebook se è quella. KK. Una moto musicheggia. Roba seria. Dovrebbe essere l'unica in Sardegna, quella lì, perché quando l'ho comprata era un modello su ordinazione e è arrivata direttamente dal Giappone, ho aspettato 3 mesi. Addirittura, alla ronda sono giunti. Chiaramente su una nave cargo. Da Giappone scalo a Rotterdam, poi da Rotterdam a Torino, il centro, cioè la sede della Kawasaki Italia, e poi da Torino l'ho consegnata qua. Buono, va bene, che bene. Avanti, Daniele. E sogna Iru. Ma quella foto l'hai fatta nel terrazzo di TeleG? K positivo. Andava bene, veda. Così è. Pensaci già, fai l'affare, aiù, vendi, compra, fai, di so smonta. Fai te e camomilla. qualche pezzo di qualche antiquariato se lo potevo vendere, là, se non lo usa più. Se c'ha questa passione della radio, prendo una bella radio. E infatti, gava, io se riesco a vendere 2 gingilli che c'ho, non sono radio, sono due, c'ho un amplificatore e un subwoofer da vendere, nuovi fiammanti, se riesco a vendere quelli, da quello ricavo una radio. Ma è quelle da macchina solo, così? Eia, sono nel fuorizzale, ho messi, Massimiliano, pensa a tu. Io non sono mai stato amante, cioè è bello sentire la musica così, ma sono finiti i tempi. Io ho fatto anche... ho trovato l'affare, tutti e due nuovi fiammanti, presi nuovi, sto aspettando, dove si invedita, non lo so, da quel dì, ancora non si accerà da nessuno, è ottimo come prezzo, e se vai a comprarli non ti bastano più di 300 euro, ti partono. Quello magari è qualche ragazzino, capito, appena patentato, roba così. Se le piace. Sì, io è strano perché in macchina, cioè nel fuorizzale non ne faccio niente, poi mi occupa, già è piccola, cioè se devo caricare mi occupa spazio adesso. E va bene. E quindi faccio così, da lì se riesco mi ricavo una radio. KK 030. Eia. L'affare devo trovare, l'affare del secolo. E io lo trovo, prima o poi, già si trova. Avanti, Gianni. Eia, stavo facendo una cosa. Vabbè, farò sicuro, meglio essere, come si dice? Vabbè, non trovo il termine. Adesso mi scarico, sicuramente troverò il manuale di istruzioni del rosmetro, così almeno me lo salvo e me lo tengo da parte. E cosa te ne fai? Quando lo sai usare, guarda, te ne frega. Vabbè, ogni tanto già fa bene tenerlo, giusto per rinfrescare la memoria. Sì, sono 2 pulsantini da toccare, non è che ci voglia molto. adesso mi stava dando l'altro Claudio, quello con i due strumenti, che praticamente dove le lancette si incrociano, ma dice che era, aveva un piccolo difetto e perciò mi ha dato questo. Allora, quelli a raggi incrociati devono essere perfetti, se no ce lo butti, capito? Preferibile avere uno così, perché gli aghi, se poi quelli a raggi incrociati lavorano meglio di quelli, però se si sballa poco a poco ti rampi tutto e non ti segna giusto. Certo, certo, infatti ha preferito darmi questo, Claudio. Beh, quello va bene, è nuovo. Sì, sì, è impeccabile. Ho visto la foto, abbastanza nuovo, a voglia. E segna anche abbastanza bene. Sì, sì, è nuovo. Devo adattargli un piedino di gomma, perché gli manca un piedino di gomma e quindi la gente zoppo. Sì, non so cosa puoi fare lì. Non ho un consiglio. Ti prendi quei, come si chiamano, quegli affarini che si mettono sotto le sedie, o di gomma o di tessuto, le togli i quattro piedi di gomma e le metti quattro di quelli lì, e si è arrivato. Eia, bene mela. Se vuoi, te li credo io, me li tolgo dalle sedie, a qui. Costeranno 60 centesimi, un euro, quegli affarini presi sotto. Lo ritagli, no, te lo fa un pochino più piccolo, è adesivo, glielo metti, boh, e si è a posto. Sì, sì, sì, ho capito, Massimo, ho capito. Penso che è andato, Daniele. Di russo, Massimiliano, di russo, va bene. E così si sta un'altra cosa. E allora la cosa è tutta King. Cambio. Anda bene, veda. Beh, io mi allontano un secondino, là, che vado a beverarmi un po'. Vai a beverarti. E Giulio, già nel parcheggio abbiamo lasciato, Giulio! E Giulio l'ho lasciato in parcheggio perché stava allontanando di nuovo e non l'ho disturbato. Cappa cappa, là, vado, l'ammazzo e torno. Cappa di rosmetro, va bene. Li prendi, Gianni? Sto cercando le... su internet le istruzioni del rosmetro. Gava. Ma Claudio, non ti ha detto se poi entrava in radio o no? Negativo, non lo so, non idea. Gava. Ehi, è mezzogiorno, devo andare a comprarmi ancora le sigarette. Proprio i fumogeni. Cappa. Ogni tanto passa la lappe. Beh, aspetta, vado a farmi la boccata d'aria io, dai. Ora, ma stavo innescando. Ora. Ora. Che è già? No, sto provando, niente di grave. Va bene, dai, un po' di un altro paio di passaggi e poi vado a iniziare a accendere il fuoco. Allora, questo 7 lo devi provare, centro banda, canale 20, quanti canali ha quella radio? Quartati 27, cioè è un 40 canali, però quartati ne ha 27. Devi provare al canale 1 e al canale 20, il 20 dovrebbe essere più o meno il centro banda. Ok, e ripeto la procedura che mi hai detto poco fa. Sì, te la ricordi? Più o meno a grandi linee, dai. Aspetta, allora guarda, metti, te lo rispiego al volo, metti il cursore in SWR, ok? Poi metti il tastino in direzione, schiacci la portante, ti fai il set e poi porti la direzione a riflessione e ti guardi le stazionarie, ok? K. Nella scala di sopra. Poi se vuoi vedere i watt, fai la stessa operazione solo ed esclusivamente spostando il cursore dove c'è scritto W watt. Fai la stessa procedura, capito? Ok, con quella variabile, da SWR chiaramente a watt. Cappa, devi spostare, allora se ti devi controllare stazionarie, quel cursore lo porti in SWR, quindi l'altro cursore in direzione, col pomello ti fai il 7 con la portante premuta, poi molli la portante e fai il 7, cioè metti in riflessione l'altro il cursorino, capito? Eia, eia, bene meda. Sempre giustamente scala 10, non 100. Eia, eia. E il pomellino, quello on e off, quello lo lasci spento, perché quello lì ti serve solo ed esclusivamente se c'hai le stazionarie, quello lo metti in on e con i due pomellini ti abbassi le stazionarie. Ma tu ne hai uno e uno, va benissimo. Ok, ok, bene fatto, dai. Quindi non è arrivato nessuno? Io. Gappa. Va bene, ok, riprendi Daniel. E io ho detto, faccio altri due passaggi e poi me ne vado a accendere il fuoco. Facciamo un po' di orate al nostro giro. Già va bene, io lo stesso. Altri due passaggi e poi a pappare su. Eia, che sono in fermo oggi, mi addormento. Ga. La cosa? Io smonto ante notte. Con l'ambulanza? Scappa! Ma tu sei sempre lì o per lavoro oppure che cosa? Un mix. un mix, Massimiliano. Capito. E niente. No, perché c'è gente che lo fa per lavoro, capito? Lo so. A breve già mi sistemo. Sì, vabbè, piano piano, Daniel. Sono anni, guarda, Massimiliano, anni. Più di 10 anni così. E va bene. Vabbè. Prendi quello che c'è adesso. Infatti, adesso sta passando il treno e lo prendo al volo. Non ne frega niente. Prendilo subito, non lo mollare più. Mettiti le cinture e legati bene. Infatti, mi leggo bene, metto la colla, sigillo, saldo, in modo che non si stacchino. Lo so, è un casino questo lavoro. È un casino. Va bene. Così è. Tanto. Adesso vediamo come la mettono con le tue cittadinanza, un altro casino. Il 6 mi dice che bisogna ritirare la scheda. E vediamo, ma quella come la ritiro, come il sistema, vi faccio arrivare, cioè grazie. Mi sto guardando un video, cazzo, via Mottero, un video su Facebook, cazzo, mi sta stracciando il tetto completamente. L'hai visto? Tutta la carta catramatta. E quello di lì punti. Lì nella via principale, come fra 131 e gira il semaforo e ci sono tutti i calcinacci in terra. Ha fatto un bel casino questo vento, cioè sta facendo ancora perché non è calato niente. No, zero proprio. Zero. Dice che hanno fatto già più di 30 interventi i vigili del fuoco. Povaracci, che il giorno di Pasquetta potrebbe starsene tranquilli. Se ci fosse stato un bel sole invece. E invece pazienza. Così è. Purtroppo quest'anno è andata così. Oh, era meglio la pioggia, hai detto questo vento, per carità. Hai visto poi la foto di Balai che ha spazzato la spiaggia? Sì, lo stavo guardando. Oia, mi sa mi faccio un giro con la motosega e vedo se trovo legna per strada, mi taglio qualche albero. Sì, sarà meglio. Mi inizio a fare legna per il prossimo anno. Nessuno. Gappa. Vabbè, dai, io allora mi stacco, là. Al limite riprendo un po' dopo pranzo, se si può. Ci sentiamo, là. Ciao Daniele, buona carica, anche a te Gianni e Giulio e chi fosse in ascolto nel canale 10, là. Io mi stacco, ciao. Ciao Massimiliano, buona carica, dai. Salutoni, a dopo se coincide. Riprendi Gianni. Eia, buona carica, buon tutto, dai. Ci si aggiorna quanto prima. Gaba. Mia, lo stesso, altri 2 minuti e poi vorrà fare la commissione, se no oggi è tribola la storia. Provate le istruzioni già. No. Vabbè, se sono al baracchino o faccio uno o faccio l'altro, dopo lo faccio con calma, dai. Ah, non fai come me che ogni tanto guardo al telefono, parlo e faccio 200 cose insieme. Ci provo, ma a volte mi riesce, a volte no, quindi dai, lo faccio dopo e ciccia. Va bene, ok, già, dai, anche io adesso mi assento. Ma ogni tanto non innesca questo Hola. Ogni tanto innesca, vero? Eia. Come mi avvicino, Hola. Così mi devo mettere. Adesso è pulita, giusto? Sì. Meglio, guy. Ok, già, dai, io chiudo e ci sentiamo dopo pranzo, dai. Andava, buona carica, a dopo, dai. K Rosmetro, a dopo. Ciao, già. Ciao. Avanti. Sì, buonasera, ciao. Mi dai cortesia? Sei Tino? No, sono Antonio Riserva. Ah, ciao Antonio, sono Gianni, ben sentito, buonasera. Vieni avanti, vieni. Sì, ciao Gianni, ben ascoltato. Perché sì, mi trovo quello di Tino. Lo stavo provando, 1, 2, 3, grazie. Santiago 9, Radio 5. Zona stazione Sassari. Aspetta, allora sto andando bene. Ok. Sì, grazie. No, sono stato anche adesso. Tranquillo. Sì, Gianni, ecco, sono rientrato, scusa, ero una massa. Vabbè, non tenere i piedi, ce ne sono ancora. Pronti? Prego. Avanti. Buonasera. Ehi, abbassa un po' di eco. Sì, sì. Gianni, non posso abbassare la cazzo. Istica, prontissimo. Ciao Gianni. Auguroni, anche se è un po' in ritardo, dai. Ci sentiamo oggi per il dopo Pasqua. Cosa stavo dicendo? Come è successo il Gianni Sicilia? Troppo forte, sì, di eco. Boh. Dimmi già. Aspetta. È un po', ma sempre forte l'eco. La ripetizione è forte, più forte della voce. Guarda così. Ma tu lasciala così, dai. Mi stai dicendo? Ho detto, cosa è successo in via di Sicilia? Io mi sono sorpreso perché c'è tanta roba. Praticamente, sì, adesso l'ho visto proprio di persona. Stamattina mi ha mandato delle foto dei colleghi. E un tetto si è scoperchiato, è andato a finire giù sulla strada in Via Sicilia, ha preso un paio di macchine. Infatti ancora tutta la falda intera è sopra due macchine. Da. Allora, diciamo carro. No, il tetto intero proprio. Era quei tetti forse avvitati qui a pannelli, avvitati sopra gli steli in legno, da. Il vento è entrato, l'ha scoperchiato, l'ha scofanato proprio intero. Cucinato, ma c'è che anche cucini. Non lo so, quella lo so, mi hanno mandato le foto stamattina presto, che c'erano già i pompieri, sia giù che su. Ma ancora tuttora le macchine si vede con le gomme a terra, cioè a terra, cariche, le sospensioni cariche dal peso della falda, del tetto, da intero che sopra le cappotte. Poi di accadere il resto non so altro. Ma com'è la vera? No, non sono di tutte le macchine, sono un po' ammaccate e basta, e si vede il peso che grava sopra le sospensioni. Sì, ma dico, però male non c'era gente che passava sopra. Non so, spero di no, dai, no. Bisogna ascoltare qualche telegiornale adesso, tu non hai sentito nulla? No, io l'ho visto su Facebook. E io su WhatsApp, da un collega che è nell'ambiente, nei lavori dei vigili. Sa che abito lì in zona, quindi mi ha mandato subito un paio di foto. E io mi ricordo una volta che mi ha più, dove c'è la vita di a piano. Certo, c'era praticamente la parte di tutta la parte di Damasco. Questa è la parte di dietro praticamente, non è la, non, non è la fata che dà il Via Sicilia, è la parte di dietro, infatti sicuramente avrà fatto due giri, tac, tac, come che tu fai capotare un materassino, no? Due volte, ed è poi scivolata sopra le macchine. Ed è, poi si vede che è intera proprio, è tutta la fata proprio, allucinante. No, speriamo che sia andata bene, sembra che non sia abitato, è proprio un sottotetto, quindi non c'è, non si vede l'abitazione, dai. Ma dico, la volta che è successo, si trova sezionata la parte di davanti della casa, cioè tutta la parte anteriore è caduta dalla chiusa, e si vedevano praticamente i piani, tipo quello che abbiamo visto il continente dove sono successe delle alluvioni, e ti vedi proprio la sezione della casa scusa, tranne il muro di facciata, là adesso vedi tutto, vedi ancora i quadri appesi, i mobili e tutto. Chi è? Chi è? Avanti, di Gastoni, no? Ho sentito malapena una frase del genere. Da dove modula che non lo sento? Cata, tu 95, io ho proprio... Ma che mi hai fatto danno l'antenna, no? Che zona è già, Antonio? Deve essere negativa per me quella zona, da lì vede anche verso i punti, non entra nulla qua. No, perché sta arrivando basso a te? Questa antenna è, no, la ricezione è un po' sorda, perché è attaccata al palazzo, alla facciata, quindi non sporge dal tetto. Siete solo modulati, siete solo già, mi dispiace, sta dicendo? Ho detto che la mia antenna è parallela alla facciata, non sporge dal tetto, quindi rimane un po' sorda. Mi dispiace, ma secondo me questa antenna che magari trasmette meglio di quello che riceve già, è che non è il primo che io ascolto basso, allora ormai mi sentono un po' meglio, quindi sicuramente c'è poco guadagno in ricezione. Sono sempre così, anche questa crisi. quanto fatto stai uscendo? 10 di portante. Guarda, parli piano, invece se, quando alzi la voce diventa molto forte la ripetizione. Se parli piano sei chiarissimo. O magari è un problema mio di apparecchio, di udito, boh. Io parlo piano, non faccio tempo di mai parlare. Sì, no, già, la tua classica modulazione, quando usi quell'apparecchio lì, io la conosco da tanti anni, lo senti, non è lì, cioè se c'è l'apparecchio. Che mamma io. Non te la ce l'avrò. Ma io tra questa ci sono, non si compra, sono 35-40. Tu pensa che io la concessione, la prima che ho fatto, è praticamente del 86-87, la prima che ho fatto, cioè anche la pensavo che giù è molto di più io, 75, 74, 75. Non so, ma tu sei anche qualche 5-6 di me. Ho cominciato con un portatile della Faglietti, un water mezzo, 3 canali. Però faceva un confortabile, io riuscivo a arrivare da me, tranquillamente. Già, eravate che io già penso che ho avuto la un'altra testa con le auto che mi avevano regalato. Antenna, ne avevo una di quelle che si attaccavano tipo portatili, però con PL, non ce ne va niente, allora un giorno lo so, ho lanciato i fili da tenere, abitavo il sacro cuore, i fili da tenere, sono riuscito a farmi sentire la voce di tutti, da lì, Gabriel, Ringo, Mario Lauro, Turbo, Vito, la felicità. Il viaggio, non al sacro cuore. Adesso che antenna stai uscendo, se lo puoi dire? Sì, se lo puoi dire, sono a piede civile. Una? Una a piede civile, l'altra di macchina è praticamente abitata sulla faccia, collegata sul palo dell'antenna. Ah, ho capito, una PLC1000, ho capito. Anche per quello, magari. Sicuramente con un'antenna più performante ti avrei ascoltato meglio anch'io, Ma quello che mi era di lavoro è stato benissimo, capito? Cioè, le antenne, allora, l'antenna alla fine civile, l'antenna di macchina, quindi chiaramente per la diaria bisogna di fare un giochiale di massa molto ampio, tipo una famosa H, una cosa del genere, però sai, fatto un rapporto, in teoria, visto che tu hai una cinquanta di onda, avresti dovuto ricevere tu meglio e io ascoltato il peggio, invece il contrario. Bah, la frequenza è strana a volte, ho fatto. Arri, buonasera. Buonasera a te. Ti auguri, perché siamo sentiti che si è fatto, come si dice, ma si è sparito anche. E di questo periodo il profeta stava lavorando bene, tra Pasqua, risurrezione, cose varie, vero Gianni, auguri. Contraccambio. Vabbè, per Antonio, si sente che che Tino ti ha dato qualcosa, perché c'hai la stessa dinamica, la stessa timica di quel microfono. Se riesci a abbassarlo appena di amplificazione sarebbe molto più gradevole fare un QSO. Sì, certo, ma c'è questo problema. Non è che me l'ha dato per utilizzarlo, io devo sentire il cavo spirato e quindi io lo stavo preparando poco fa, che lo sono attivamente qui, però anche perché me l'ha dato se la settimana fa, per trovare domani riesco a farlo sicuramente. Quindi adesso vedo un po' se qualcuno in frequenza che mi dà conto, adesso ho passato da lì. Sì, adesso è ascoltabile, vabbè, questo è il mio parere personale, poi, perché più o meno si sente che è lo stesso segnale, dai. Cioè, parlo di radio, parlo di suono, capito? Parlo di suono, ho sbagliato io il termine, parlo proprio di suono. Quel microfono è un suono classico, infatti quando si è entrato poco fa ti ho scambiato il pertino. No, perché sarebbe stato fare un soldatino, dire che avevo lo stesso segnale, perché sono anche no, vabbè, mi sono incasinato io, ho sbagliato il termine, volevo dire un'altra cosa. Comunque già ci siamo capiti. Guarda che sta regolando. Tu sei troppo forte qua, nel senso, per me meno eco sempre meglio per me. Anch'io avevo l'eco qualche anno fa, poi si era bruciata la camera eco, ma ne usiamo proprio appena, è un leggero reverbero. E col vento come ci è andato con l'antenna, Gianni, doppio room? Col vento come ci è andato? Cazzo, e tu Gianni, dove lo fai? La mia è abbastanza flessibile, tranquilla, sventola, scorrazza, sembra un cane che scodinzola, si muove parecchio, però vabbè, è sottilissima, per cui non ha problemi. Ho visto, l'ho controllata già due volte ed è tranquilla. Ormai il battesimo gliel'hai fatto, cioè, se ha aperto adesso, quindi si è a posto. No, la mia proprio non ho per qualche minuto, è con tutto che lei tira già bene. E questo non era maestrale, ma scusate, ma era forte lo stesso, penso che le raffiche fossero vicine ai 100 orari. Ma mia antenna avete fino a 120 orari, ma c'è stato qualche momento che sono male, ti vanno, come si dice, in risonanza, vanno a vibrare col vento e ti fanno rumore, così è. Ma anche l'antenna fischia, ci sono antenne che fischiano. Quelle rigide, queste canne da pesca ti piegano a gigotto e loro non sanno fischiare queste. Avanti, Anto. Che era? GTM 999, ho controllato, ho fatto una verifica, anche in questo momento è attaccato, ho 1 e 1 di stazionaria, dai, quindi va più che bene. Sì, più o meno l'ho già fatto, ho fatto tutta quell'operazione lì, poi c'è anche l'accordatore, questo qua, e niente, insomma, molto buono, molto buono. Ma se non è altro, per te non c'è bisogno di un accordatore, per... io, capito, ce l'ho, questa sesta trevata ce l'ho tutta bianca. Cosa ho messo? Sì, ho messo... la crema, sì, con la crema che si deve tatuare. No, ho messo quel grasso particolare, grasso di tutti si chiama, non so se tu lo conosci. Si usa anche per portare in culo. No, a parte di sì. L'ho messo su tutto il DL, nelle dopo ho messo la scalinata, quindi ho messo anche quel grasso di tutti. E poi un po' di trasparente dato sopra, come si fa, Gianni, doppio rum? Così si fa. Sono petrificata praticamente, se non sono marci, va bene. Avanti. Olio di lino? Ma che cavolo, ho pensato così, dovendo la usare, di smontarla tutta, pezzo per pezzo, pulire specialmente dove ci sono le connessioni, là dovrebbe condurre l'antenna, il mallone, il registro della cordatura dell'antenna, spazzolarla bene e dargli un po' di trasparente, dai. Poi magari prima di piazzarla, ingrassarla, sigillarla di nuovo con il Vulcan e rimetterla in funzione, dai. Io la mia sono stata per gli invenzionati di maschio. Già, quanti reti mancano? Due. Due su otto? No, su cinque. Due su cinque, cavolo. Eppure vai, ricevi benissimo ancora. Sì, sì. E faccio questi oppure, eccetera, eccetera. No, però mi sento un po' più, ci vado di strada, ero andato dalla registrazione, dalla Germania. No, ma si vede che si sente che dici bene e sicuramente c'è un'ottima posizione, sei aperto. Sì, verso il mare, non verso il mare. E per il Diex si è a posto, dai. Spagna, Sud America, Canarie. Diciamo che sono chiuso verso quando si sono ricaduti che chiamavano Claudio mi mandato le spalle io sì mi sentivano ma più basso c'è più tutti da ehi Claudio ha aperto dappertutto Claudio sia prima le gallerie sia dopo le gallerie lui li sente però io sono pagato e sono arrivato a Urla cosa è più difficile a me mi ha detto Domenico Tazzaretto che da Zara mi sentiva solo a metà di dal posto mi cerca di sentire con Tazzaretto complimenti Gianni no non ce l'ho preso niente no ecco ma me ne ho conosciuto tanti anche perché ci compriamo materiali ma no Una volta sono andato via Lumberto, trovo qualche centro dentro, Stiamo uscendo e quindi sono circa 4 watt puliti. Comunque le tensioni le controllate senza l'accordatore, e c'hai 1 e 1, quindi? Sì, come l'ho attaccato praticamente erano già nella norma, senza poi aver fatto, insomma, controllato qualcosa, capito? C'è il tantino per escluderlo, diciamo, sai che siamo tipo il TM1000, io c'ho un TM1000, un tanto per escludere l'accordatore, cioè sì. On off, c'è il tastino. Quando metti off, quello dovrebbe essere la lettura delle stazionarie reali, dai. Sì, ok, quello già fatto. Me l'ha spiegato Massimo Bulldozer e poi ho visto anche un tutorial che, insomma, anche se era in spagnolo era ben fatto e insomma, mi sono fatto un ripassino veloce e già. Niente, dai, funziona tutto bene. Ma sì, era già accordata l'antenna, anche se quando la sposti potrebbe cambiare qualcosa, ma a grandi linee era già accordata. Sì, perfetta. 1 e 1 di stazionare, quindi va più che bene. Sì, poi quando mi hai detto che l'apparato va bene, noi ti sentiamo bene, non scalda, sicuramente è prossimo alla perfezione. Dai. Bene, avanti già. Allora, che stavo dicendo, quello di MD, quel microfono che ti ho detto che lo devo fare, quello lì, al posto di avere i pulsori, come ce l'aveva l'altro, c'ha un bottettino dietro. No, se quello che ho visto io, cioè, io di solito l'ho già detto, l'ho tutto l'ho fatto sui miei, era proprio un sito identico, uguale al MD-100. No, io ho seguito ci stiamo andando. Dalla volta che ho preso la fregatura dal 200 euro, ho visto così trovato, guarda. Ma l'ho fregata una volta, l'ho fregata una volta. Sì, non per io, siccome non volevo io, me l'avevo fatto le cose, però a questa sera per lavoro, capito, quindi parlo sempre con PayPal, con questa modalità che conosco, però stavo cercando una regola, volevo stare qui in Italia, vediamo se c'è qualcuno che non si sia ancora le mie ricette, perché questo che ancora c'è qualcuno che vede le 5, 24, c'è ancora in giro qualche la Static, qualche microfono così, c'è l'Atic, il rispondono solo la Verica, al Palmare, a Cuccia, non so di come si chiama, adesso devo andare, c'è Alzheimer. Si apre, non me lo ricordo, non è vero, perché lo sta firmando, non è vero, non mi ha

Boh, vabbè, no. un paio di volte l'ho usato, uno piccolo. Mi piacciono molto certe cose, quindi sicuramente è qualcosa che ho già sentito da qualche noto meccanico, quindi è un termine che utilizzo spesso. KK, sì. Mi ricordo anche un mio amico meccanico, quando insomma cercava il sistema delle carburazioni a determinate moto vecchie, quindi anche lui ogni tanto usava quel termine. Attenzione Antonio, c'è la da regolare perché c'è praticamente tipo un compressore in questo apparecchio. Questo qui è l'apparecchio che ti sto dicendo, poi possiamo aumentare l'eco. Ecco. Antonio. Pago, questo è il microfono che ti sto dicendo, che sono da 10.000, io qui la prendo quello che non altro. Esce bene come radio? Aspetta, può aumentare ancora un po' di più, Allora, praticamente c'è un altro tipo di campo, se non mi uguale nuovo di questa, tu lo sai come hai fatto bene la roba, io so che tu sei un ragazzo che ha scelto tutto come mi piace questo microfono. Sì, è diverso dall'altro, si sente che l'altro spinge un po' di più, però è molto chiara. Bueno, va bene anche la ripetizione, poco fa era chiara, non era di quelle tipo che senti, le ripetizioni incomprensibili. Questa la ripetizione era chiara. Adesso è tolto l'eco, c'è solo l'amplificazione, come si sente? Esatto, come Falcone. Sì, poi c'è un'altra prerogativa che sono in corso, che ha un cavo morbidissimo, lungo e morbido. Paolo, tu ti avrebbe detto, vai caro. E beh Gianni, stai ancora tarando infine? Ma cosa stavi tarando, i watt? No, il fondo corsa dello smitter del baracchino. Beh, immagina che cosa lo stavi tarando. No, praticamente l'avevo toccato tempo fa e adesso con lo strumento praticamente sono riuscito a metterlo come era prima. Sai che già gli piace smanettare? Avanti. Questo regolamento, questo c'è per l'ascolta, nella cittadina, questo c'è per l'ascolta, ecco. Buttaci tutto. Davvero? No, non mi piace, buonasera. Io, Massimiliano, chi è? Chi sei? Buona. Ti sento. Ciao Massimiliano, auguri anche a te. Ehi, ciao Fra. Buonasera, auguro a tutti. Allora, Gianni, il profe. Eia, buonasera Massimiliano, dimmi fra, guarda che ti ho mandato la fotografia. A me? Capa, su Telegram. Aspetta, vado a recuperare il telefono. Ebbene già, smalettendisi. Sì, più o meno mi sono rinfrescato la memoria su quello che hai detto e poi ho visto su YouTube c'era un tutorial, anche se era in spagnolo, che per quanto riguarda l'accordatura. Mi sono rinfrescato la memoria e niente, insomma, comunque tutto bene. Gappa, è bene, giusto come ti ho detto. Sì, sì, sì, quella parte che mi hai spiegato era tale quale, insomma, a quella che ho visto. In più questo qua spiegava praticamente la funzione dell'accordatore e di come regolarlo. Va bene. E vabbè, ma se non c'è stazionario cosa devi regolare? Va bene così, dai, avanti, doppio. Doppio sicuramente sarà addormentato. Antonio, avanti. A volte si addormenta Gianni, per quello te lo dico. Avanti Antoine. Tu Gianni Drone, Gianni Vanni, noi. Massimiliano, dammi il segnale con questa palicchia, come sta andando? 25, 6 già. Ma paga va bene. A voglia, ce ne prendiamo gli altri. Mattino, mi sembra che sia il turismo. Ah, con la Magnini? Ho visto le mie foto e ho messo lì su Facebook. Vabbè, poverino, è giornata di festa oggi. Lo so, vabbè, che ci vuoi fare, no? Ragazzi, io vi lascio, dai, con la buona serata e buona continuazione, dai, sono entrato giusto per salutarvi. Ciao Massimiliano, dai, buona continuazione serata. Avanti, Isusino. Ciao Massimiliano, buona... Capa, ciao Massimiliano, grazie per essere entrato almeno per i saluti, dai, alla prossima, avanti lo profeta. Eia, Antonio, dammi un rapporto a segnale, come ti sto arrivando io giù? Guarda, io non ti posso dire niente, perché da me è ok, positivo, va bene, era giusto per avere un referto, adesso questo lo sto chiedendo un po' a tutti, vabbè, mi ha detto che sei in zona Butibuti, giusto? Sì, in direzione sì, KK, va bene, bene Meda, bene Meda, bene Meda. Franco, l'hai vista la foto? Sì, sì, ho visto. Ok, dai. Niente, dai, l'abbiamo installato. Dove è più grande dell'apparato? Sì, in larghezza sì, un centimetro da una parte e un centimetro dall'altra. E beh, di profondità no, perché mi sembra sia molto corto quell'accordatore lì, no? Sì, è molto corto, sì, vabbè, poco profondo, dai. Sì, intendevo dire di profondità, dai. Va bene, va bene, me l'ha passato Claudio, ci siamo visti in verticale stamattina, niente, insomma, l'abbiamo piazzato subito. Io quello lo uso in macchina, lo uso, quello, perché è piccolo e ci sta sotto il tappetino davanti. Va bene, va bene, su bene come si dice, se prendendi. Avanti doppio room. Ecco, voi, profeta. Mi motocarro è arrivato, vedi. Vento, Ah, siamo qua per divertirci. Allora. A tu, se non puoi. Se non puoi già, ripeto. Se non puoi. c'è un bip. Buonasera. Eccolo, Daniele. Capa Rogero, salutoni. Salutoni, buona Pasqua. Hai ritirato la bestia? Ehi, finalmente è nuovo a casa. Ma sei in movimento, sì? No, sono a casa. Perché il segnale sta andando aumentando? Quello è come balla la samba l'antenna. Forse perché c'hai, come dire, i vatti sono tutti modulati, dai. Ecco, beh Gianni, pensavo che me lo facessi più a me la presentazione, come all'epoca. Intanto, mi dopo tu fuori adesso, mi ricordo. Hai fatto bene. Prima me la facevi la presentazione e poi, boh, sparita. No, già oggi mi sono chiuso da c'era, ma la verità no, comunque io sto lavorando, quindi la figura c'è degli amici, e quindi sono già fatto la scuola, un po' di fatto che veniva fuori ieri, la verità, ho fatto per entrare, ma devo finire, beh, quando mi ero uscito da solo, forse neanche c'è la figlia, sono così tanto, tanto ci sono, vabbè, che come è andata ieri? Andata è già, andata, tutto a posto, e niente, mi sono fatto la mia pendicella poco fa e mi sono svegliato da poco. Yeah. Uno di qua mi sa. E niente, di preciso non lo conosco neanche io perché l'ho preso già così. Cosa tu? Ho capito, no, già, cosa ha detto? Ha detto che se sapeva chi era, l'avrebbe picchiato quel bip che ha messo. Non mi piace. Tanto non ti piace questo bip. Coronano la parata, le ecoli, già sai che io sono un civico di artisti, sono civico e sono la persona che mi sta, ma io sono pure, credo che la realtà non sta mai cercando, io sono un'idea, ma non è un'idea, guarda che sono, c'è cioè, cosa che si è, se ne faccio attaccato a questo, ma voi lo posso tutto, io ho parlato nel mando non ho mai, qua lo posso tutto, come qua la vabbè, comunque mi fa piacere che stia ancora funzionando bene. Sì, io sono qui la parte di fare lavorazione, non le parlo, si chiama il civile, ma io non ho rispetto, si è detto, quindi ma me lo invito a fare, posso, da loro, per fare il tuo, ci sono portare. Non mi ricordo, minchia, già vi costa, le voto viene la scheda. No, no, il bip di Daniele non è fastidioso. Vuoi chiedere una cosa, Daniele, se lo puoi dire, se hai speso molto per sistemare quell'apparecchio, per allinearlo e cose varie? No, zero. Poca spesa e tanta resa. Va bene, pensavo molto di più. Ma proprio 0-0? No, un zero, però già andava bene. Io ne ho uno che non esce bene in FM. Mi sarebbe piaciuto portarlo a lineare, se ne valeva la pena, dai. Cava, cava. Che apparecchio è? Un Super Galaxy. Andava, perché mi ha detto se sono, cos'è, il President. No, non è sistema, non ne vuol sapere. No, sono Super Galaxy, non so se lo conosci, come i samurai, tutti sono tutti uguali intanto. Sì, quello sì. Si può provare a chiedere. Ok, K. No, questo che sto usando è il samurai, però l'altro, quando metti in FM invece di sentire più rumore, addirittura è più silenzioso. Abbiamo provato con Giulio a provare a toccare il trim, ma non cambia nulla. Perlomeno mi ha dato lui il numero del trimmer, VR, adesso non mi ricordo, adesso lo guardo, aspetta. Sì, è quello con il frequentimetro. È che il Super Galaxy c'ha qualche, esce con più watt, invece che 10 ne esce con 20, ha una banda in meno, se non sbaglio, e poi non mi ricordo, qualche altra funzione diversa e basta. Invece questo c'ha una banda in più, questo scende sotto i 25 MHz. No, questo non è stato mai toccato, dai. Ho appena un po' più di il watt e la modulazione, ma quei trimmer classici, dai, poi il resto non è stato toccato nulla. Aspetta, guardo se trovo il trimmer che abbiamo toccato, cioè, riprendi l'Ubrofetta. Eia. Vabbè. Sempre scacciavitando, ragazzi, cro. Tipo pistola gommista. Io c'ho qua. Allora, mi ha fatto toccare il VR5 FM deviation. Ah, non ti sento bene, purtroppo, cavolo. Molte cose le perdo. Qui ho capito che non è quello il trimmer, e qual è? Molte volte ho difficoltà. Non ho capito, cosa hai detto già? Sto sentendo male, non qua no. No, è colpa mia, sono io che non sento qua. E il numero non lo sai? Praticamente... Non lo so, altri... Allora, VR1 mi dice che lo smitter, VR1 regola lo smitter sia in AM che in FM. Poi c'è VR2 SSB CW, sempre lo smitter, il VR3 SSB squelch mi dà, VR4 AM squelch range e così via. Poi di FM non ne parla più. Anche a me questi me l'ha passata in Giulio queste regolazioni qua, eh. Perché questo galattico io l'ho comprato, tipo da con un partenariato, sicuramente l'avevo abbassato, di fatto mi e l'abbiamo regolato così, dato da tutte le parametri. Sì, a me questi me li ha mandati Giulio, questa coppia me l'ha mandata Giulio. Sì, come abbiamo fatto con questo, però l'FM non prende, non siamo riusciti a regolare, non cambia nulla praticamente, io giro, ma è come che siano un po' fuori frequenza gli altri, capito? Li sento un po' schiacciati, poi ripeto, quando tu passi da AM a FM, in genere il QRM aumenta, invece in questo caso diminuisce. Non è che si è sballato il filtro perché sono andato a vuoto, non è? Non lo so, non abbiamo, cioè non l'avevo mai toccato, è stata la prima volta che l'abbiamo controllato e non prende regolazione, boh, oppure non cambia nulla, o non è quello il trimmer, boh. Io avevo paura No, anche questo mai toccato, tutte le altre hanno funzionato, l'unica che non ha funzionato è questa FM, poi adesso i watt li abbiamo anche noi aumentati, più o meno, non dico al massimo, appena raggiungi il suo massimo, quanto è? 10? Lo porti appena appena a 9 per esempio, torni appena appena indietro, come hai fatto tu, dai. No, mi non scalda nulla, l'altro abbiamo preso a 20 di portante e 30 modulati. Ma la scheda è uguale. Sì, sì, comunque non scalda nulla, no. L'unico problema è che se devi pilotare un lineare, 20 watt di ingresso sono un po' troppi, vedi, ti va in saturazione magari. Ma non sei fatto regolabile? Tanto per dire che c'è una bomba di qua, no, questo non regola. Lubrofe. Eia, eia, dimmi. Non hanno aumentato, no, riprendi. Ma Daniele, perso c'è. Già sono qua. Ah, ok. Non sono molto loquace stasera. E quindi sono di poche parole oggi. Sono fiacco. Ma le batterie è esaurito. Mandia Dudru. Sono fiacco, dai. E quindi poche argomentazioni da proporre. Sono ripetiti, dai. Si ferma, sì. È rimasto a te, come? No, forse non facciamo per la voce. Qualcosa per la stazione? No, negativo. Volevo fare insieme alcune cosette e ancora sono fermo. Non sono deciso ancora a muovermi. Piano. Per quello fare storico, già. Adesso da vedere ancora. Tutto da vedere, l'intenzione c'è. Te lo prego io. Oh, vedi la villa. Te l'ho chiesto per quello perché non sono figlio. Che quello ci vuole. O quello il 14, come era all'epoca. Però se prendo il 14 poi voglio fare tutta la linea completa. Bene, tu ce l'hai ancora? Sì, ho un 3,40, questo, la piazza di campagna non ha senso. Se tu andi in campagna per rilasciarti con il baracchino. Ah, tu andi in campagna per rilasciarti con il baracchino. Quindi a morire che. Vai, vai, in campagna non ce ne vuole di niente, in campagna ci vuole la graviglia. La zappa ci vuole, ciao Cla. Fai bene. Buonasera. Gianni, va a vedere uno che va a fare il volume, va a vedere due laggiù, devo sollevarlo, qua che è successo? Ho più rum, alza la voce. Sì, allora se va bene così, se fa una voce bassa. Oh, c'è tutto cupo, non mi piace di questa modulazione. Sì, ma è meglio di quella che c'è la microfono normale. Sì. Capo, io non sento bene, cioè le persone siamo leggermente fuori frequenza. Quindi io ho toccato, diciamo, la mia modulazione in uscita ho toccato. Ti sento un po' maluccio, però ho capito che non era quello il trimmer. Però se tu riesci a dirmi qual è il trimmer, se ti ricordi, oppure se trovi lo schema magari, se adesso non ce l'hai a disposizione. Quindi proviamo a centrarlo di nuovo. Non è già. Sei troppo alto il tuo di radio, non devi gridare. No, ma che... Sì, sì, non gaggiotto, se no non ti capiscono perché strappi. Alla grande, sì, segnale 5, radio 10. Ah, perché sei un po' in antenna, già troppo che arrivi così alto, perché io ti vedo a te e quindi ti tiro fuori bene, Santiago 5, radio 5. Vabbè, proseguite, dai. A dopo. Ok, grazie, Cla. Per i complimenti ci sentiamo dopo, che cosa? No, sto facendo cose, no? Quello ne ho voglia di... Fatto un sacco di anno, sto vento, guarda. Lascia aperto. Ho buttato due alberi, di cui uno ancora in terra, perché non ce l'abbiamo fatta a tagliarlo, è ancora nell'ingresso del cancello, quindi possiamo uscire solo con, dalla parte del passo carraio, dal cancelletto piccolo non si può uscire. L'altro invece è stato già tagliato, però c'era troppo vento, adesso a domani. Si vuole entrare, sì, e tranne dal passo carraio, altro non posso fare io. Claudio, dove sono sceso? Quell'albero, quel filo che abbiamo parlato l'altro giorno? Se ne scende quello o faccio il palazzo? No. Un altro simile a quello, abbastanza grande, una decina di metri. Ed è di traverso tra un giardino e l'altro dell'ingresso, capito? Sfasciato quanto c'è. Lampioni, tutto. Sono gli elettricisti collegando velocemente per stanotte, se non si poteva accendere la luce. Ha rotto nuovamente l'accensione, ha rotto tutta la siepe. Quando io dico rigogine o rivagini, non c'è niente da fare, sto cazzo l'amministratore lo prendo a qualche albero, di quelli che però non cadono, mi lampo io con la motosega. Ah, ma il fuoristrada si può agganciare a spostarlo? No, non è, ce ne abbiamo fuoristrada qua, Daniele, siamo fratelli. Non esce, non si può spostare perché è in mezzo, capito, tra un giardino e l'altro, attraversa proprio la stradina di uscita, e davanti al cancello vuole tagliare, c'è una radice grande quanto il tuo fuoristrada, infatti avevamo chiesto stamattina il vigile fuoco, però ci hanno detto guarda sarà molto difficile perché siamo incasinati, quindi niente, l'altro l'abbiamo tagliato noi con la motosega, però si è fasciata la gardena e quindi abbiamo lasciato stare perché è un bel grande, un bel duro, quindi domani mattina verranno i giardinieri con le motoseghe grandi e lo faranno loro. Anda bene Meda, ok, c'è bisogno fai uno squillo. Ehi Alenia, grazie, grazie. Se prendete dai. Che mi siedo un attimino, che voglio vicino a Pizzi. KK. No, comunque Sibi lo senti sotto adesso? No, no, non sento niente, nulla, va bene così. K, va bene, dai, riprendete. Gianni, un profeta c'è. Ciao Claudio, buonasera. Ciao Gianni, l'hai provato quello strumento? Sì, sì, ho... l'ho attaccato, mi ha dato qualche dritta a Massimiliano e poi ho provato anche l'accordatore. Sì, sì, funziona, funziona tutto. Sì, sì, 999, quello è un smetto da un attimo il accordatore, ecco perché no. Non riuscivo a capire perché non c'è la... la scatola, evidentemente il coso, il manualetto no, non c'era, comunque funziona perfettamente, va bene. Sì, sì, K Claudio, perfetto, 1-1 di stazionarie, poi vabbè ho regolato, ho fatto anche la cordatura, ho visto un tutorial in spagnolo su YouTube e niente, il tipo l'ha spiegato molto bene, in maniera semplice, quindi mi sono fatto, ho fatto più o meno tutto e praticamente sto uscendo con 4 watt. Va bene, va bene, infatti c'è uno strumento già da tenere sotto controllo la situazione, vabbè. Altro non ce l'avevo, se riesco a recuperare qualcosa di se va meglio te la do, infatti io non faccio niente, ok. Avanti Gianni Operumo, riprende, fai girare, bianco per me, a dopo, ciao, passo e chiudo. Io arriva già Franco che ciao Claudio, va. Buona continuazione, siamo qua, per lui. Avanti K, ciao Claudio, mi hai sentito anche a te, rivolgiamo gli auguri anche a te. Comunque già hai visto Craga anche qui in via Sicilia un po' di anno già l'ha fatto, non so se hai visto quel tetto che è volato. Se puoi riprendere, se no riprende Antonio. No, no, già ho visto tutto, sono alle 7 io. Alle 6 e mezza, alle 7 in piedi, no? un casino. Rami da tutte le parti e quindi adesso vediamo domani mattina cosa decidono di fare, ma io l'avevo già preventivato quando avevamo l'autoscala a disposizione, ho detto cimiamo questi alberi d'ingresso, sono pericolosi, la messa a correre, no Claudio, ma cosa, non le fa niente, l'ho detto, se arriva una libecciata, uno scirocco, un vento di terra che spinge molto soprattutto dall'autostrada, questi alberi ne scendono, uno ne è caduto 3 mesi fa, l'altro ne è caduto stamattina alle 5, capito? Quindi, ma come non era entrando nessuno in un cancello, se non mi dice che è un grabo. È così. Rumore, sto voglio una bomba. Non puoi lasciarli così gli alberi a briglia sciolta, specialmente questi pini che ormai non hanno radici profonde, ma sono superficiali. Alla prima ribacciata, alla prima colpi di vento vengono giù. Comunque dai, è andata bene, anche qua forse è andata bene, non ho sentito nessun ferito. Ci sono le macchine col tetto sopra appoggiate, le sospensioni sono a terra. Comunque, avanti Antonio. Sì, comunque è chiaro, io sono qui nel tuo condominio in Pini, perché c'è una fratella che cosa ha tagliato un paio lì in plantoria, e posso dire guarda che hanno cucinato la carne, la vai a restiare. Guarda, a me se vuoi venire anche adesso, ti prendi la motosega, lo tagli tu e ti si bucca il dutto, a me manco balle balle me ne affrutti. Sì, li fai cercare, ma poi questi sono vecchi, non ne hanno di colla attaccata, no, capito? Sono vecchi e per quello che ne sono caduti. Vanno bene, non c'è nessun problema. Mi esita domani quando arrivi in giardinieri, si vado in appoco col camioncino, caricano tutto e lo portano via. Vabbè. Ok, dai. Va bene, proseguite, ci sentiamo, se ne voglio rientro dopo, altrimenti alle prossimine, ciao. Ciao, Cla. No. avanti e faccio un attimo di bianco, ritorno subito. Sempre più basso Gianni, sempre più basso. E oggi fiacca, dai, mi sembra che è un po' fiacca per tutti, dai, quindi va bene così per oggi, dai, non ci lamentiamo, avanti fra. Guarda così come mi senti. Adesso va meglio, dai, adesso va meglio. E già lo credo, 3 giorni mangiando a 4 ganasce, o già. Porca miseria, a parte il vento, poi io non riuscivo neanche ad andare in giro a goderti un po' la Pasqua, la Pasquetta, quindi sempre intanati. Noi eravamo lì a Tentino, in un locale lì, però ci beccava il vento in faccia di brutto, Cavolo, no, le camere erano riparate, La piscina, vabbè, non l'hanno neanche riempita. No, qua era, così c'è il buffet, quindi di più ne vetta. Ma ripeto, non è che mi sia fatto male, però ci siamo difesi bene, dai. Ma io finché il macinino funziona, sono di buona forchetta, grazie a Dio. Vabbè dai, si fa quel che si può. Avanti, doppio rum. Aspetta, quanti anni non fu? Anch'io più o meno. Siamo con questo portale, invece adesso sono più di io che me ne fumavo anche 30 quando andavo a pescare, facevo lanciando, facevo la sala su 80 metri e facevo la sala, tutto questo. Poi la mettevo in fila la lenza, mi sedevo la lattiglia e mi fumavo la sigaretta. E infatti a fine non stata me ne fumato anche 30. Perché prima ho cominciato da 10, poi 15, e aumentavo sempre il 3, e non balla. Non devo vincere lui, passavo avanti a tabacchio, 2 o 3 volte, dicevo non è colpa, e me ne andavo. Una volta solo mi ha fregato, sono andato a pescare la torretta, e c'era il tabacchino aperto, ero un po' nervoso perché non stava mangiando, e adesso non mi sono fatto fare il sigaretto, poi certo che l'ho fatto, me l'ho fumato in là e poi se ti aspettate ci devo stare. Già, perché fatto io ricordo che ci vuole valissimo. Vedi i bambini a volte con la loro saggezza riescono a darti di più sotto il fatto il vento. Andate via, Dani. Si sa che è in QRX. Per tutto non è mai fumato. Qualcosa qualche anno fa, poi adesso sono già parecchi anni, 15, 20 anni, mi dà fastidio anche l'odore. Così. Anche a me fa lo stesso, lo sai. Mi dà fastidio, eppure prima li fumavo. Se ci penso davanti al computer, e mi diceva, ma metti la rimessa che questa abbastanza limitata, questa abbastanza. Poi mi andavo in terrazza a fumare, tu quando mi devi bere al freddo lo mandavo. No, io ho mai fumato, cioè mai avuto un vizio, diciamo, di tipo da 20-30 sigarette, no, proprio a volte la mattina qualcuna dopo colazione, la colazione, però io parlo di merenda, dai, dopo le verso le 9, ma più che altro perché fumavano gli amici, quindi ogni tanto se ne comprava un pacchetto oppure qualche spuntino. Ripeto, mai avuto il vizio, mai non sono stato mai schiavo della sigaretta. E poi ho parlato di pesca, questi giorni lì a Sicilia mi ha portato per sicuro una cannetta, una bolognese, dai, gareggiante, e un paio di gamberi surgelati, quelli dentro la borsa a frigo con i ghiaccioli. E ieri abbiamo trovato un angolino un po' riparato dal vento, perché lì ieri batteva forte, oggi non ci potevi pescare, ma ieri abbiamo trovato un angolino e in una mezz'oretta abbiamo fatto mi sembra 5 salaghi e un'orata, si è attaccata anche un'orata non grandissima, però ci siamo divertiti. Dopo questa mezz'oretta di pesca è sparito tutto, ho entrato qualche predatore, qualche spigola, non abbiamo più preso niente. Avanti, doppio rum. Sarà chi com'erano? Sui 200 grammi, dai, non roba da chilo, vabbè, quanto male di umano. Dai, dove sei andato? A Sì, eravamo lì all'hotel Hotel Calas, Calalupo, dai. A pagare. Sì, ma solitamente a galleggiante, quando c'è corrente, non fa pescare. Ma poi a me galleggiante non mi piace molto, mi piace di più a fondo. Io a fondo ho preso difficile. Mi piace pescare a fondo per quello. Ma quando c'è la mareggiata, i saraghi, guarda, se becchi la giornata giusta ti diverti, becchi i saraghi da chilo, spigole, occhiate enormi, le cantare, come si chiamano in italiano, se non mi viene il nome, le canutte, poi noi peschiamo con uno 012, 016, letti sottile, e portarli fuori con quell'enza lì ti diverti un sacco. Tra l'altro io ho un amico che va, sai tu, e va dove c'è la spuma, quando... come detto la mareggiata ti dà per il nome, però è tutto a trovare il posto. Io voglio vado dalla spiaggia, faccio questo scatto, quando vado, adesso mi sono stato un po' più schiena, già andrò, quindi un po' già andrò. Sì, noi andiamo dove c'è mare agitato, schiuma, è lì che il pesce mangia. Però anche se il mare è agitato, trovi sempre quel punto dove la corrente torna indietro, riesci sempre a pescare, devi trovare il punto giusto, devi cercare, devi guardare bene e studiarti la corrente. Ieri eravamo in bocca dai leoni, però il galleggiante rimaneva in pesca. Va bene. Ma io l'ho fatta qualche volta, ma non è che mi viene più la pesca, mi piace molto di più a fondo. Una volta ho beccato una tara di ombrico, ho pescato, sì, c'è stato sul filo, poi non ci credevo la francese di Claudio, tutti quanti, ma perché c'erano baracchini, ma sono stato un Claudio, così tutti quanti a prevedere, Stefano, Claudio, cioè. E mentre stavo scendendo non avevo beccato un altro, andavo con pantalone. Io ho preso un assugno, l'ombre di roba, cosa che non avevo mai abitato, un assugno, ma un qui ne abbiamo preso il pattuccino. L'hai beccato la tana, dai. Sì, la lanciamo sotto lo scoglio e poi tiriamo a casa. E mangiamo, questa è una girata, si mette con la tana in terra, con il cucchiaino, col maricchia, che tira la legge. Allora usare come ascensore o come o per segnalare la boccata? E per segnalare la boccata perché era al molo, capito? Al molo a portatore. Lo metto a ventare la canna in cui piego il manico di cucchiaino, metto la lententina, quando mangia, prima faccio il cucchiaino. Ho visto qualcuno gli mette anche la latina della Coca-Cola, no? L'agganciata. Cosa fare? Quando tira senti il rumore del barattolo. Che va così da essere un grande per buttare un barattolo. Invece il cucchiaino si sgancia da solo, capito? Magari la cosa della Coca-Cola in figlia non riesce a bidare a gara più papiri di. Invece col cucchiaino come mangia parte, esce la frambarsi. No, ma la latina vuota, la vedi in piedi cosa ci vuole? anzi se c'è il vento te la fa cadere da sola. Poi cioè, quando sono giornate calme che metti lenze appena appena la metti in mano, no? Tipo bandiera, la passi oltre il barattolo e la lasci ferma, appena tira il barattolo cade e lavora solo la lenza, però tu già ti sei accorto che sta mangiando, vai. Dai, riprendi e fai girare. Vediamo lo profetta a vedere se lui si intende di pesca. Assolutamente no, non ho, ci ho provato un paio di volte ma non fa per me ragazzi, non è per me. Io mi rilasso tantissimo andare a pescare, molto, mi rilasso tanto. E c'è gente che si annuia, invece a me mi rilassa. No, anche a me rilassa tanto, che sia in pesca o no, mi piace stare a contatto col mare, godermi anche il panorama, tutto, quei tramonti lì, specialmente a Mare di Furi, non hanno prezzo. E ok, dai, saluti tutti cordialmente. Ciao Antonio, buona serata, buona continuazione. Grazie per il pensiero, avanti Fra. Ciao Antonio, dai, spero di ascoltarti meglio le prossime volte. Tira su questa antenna, oppure dovrò metterla io sopra, forse è meglio. Allora, grazie per il pensiero o per la piacevole compagnia. Avanti Lubrofè. Ehi, ciao Antonio, ben sentito. Ci si sente all'improvviso, alle prossime, come sempre. Ok, dai, buon proseguimento di serata e alla prossima. Ciao. Ciao. Mai. Aspetta che ti faccio salito. Ciao. Ciao. Antonio. Antonio. A domani. Domani. Purtroppo non ricordo chi era. Una buona notte. Non lo ricordo. Mario Rottavi sì. Però chi l'altro non me lo ricordo che la mamma l'ha vista. Caracchi, faccio anche che si trova. Caracchi, ci l'ho fatto la mamma, ci l'ho visto. Ah, Caracchi, sì. L'avevo sentito, ma non mi veniva. Non mi ricordavo. È un bel tempo passato. Profe, aiuto, mi sentire qualcosa, facci sognare. Ve l'ho detto che oggi sono di poche parole. E niente, quindi non ho. Sono scarico ragazzi, oggi sono proprio in fase di ricarica, dai. Giro la chiavetta. E chi è? È la ora. Carica caffeina. Oh, anche io la gola felpata, mi sa che ci vuole qualche birretta, Ancora non è tempo di birrette, c'è freddo. C'è un scirocco di 26 gradi, c'è freddo. Ci vuole quel bel caldo torrido da bere birrette fresche. Vabbè dai. Comunque dai, anche io preferisco l'inverno un bel bicchiere di vino, un rosso sicuramente. E poi d'estate passo la birra anch'io. Così già va bene, già va bene. Tra un po' si rinizia. Gianni, e tu cosa bevi? Io guarda, bevo molto poco. D'estate qualche bicchiere di birra mangiano la pizza, sì, però non sono un grande bevitore. E lo profeta? Vabbè, in questo periodo poca cosa, però già, insomma, la birretta già non si disdegna, dai. Quando suonavo, mettevo musica nei locali, già ci davo dentro. Quindi, però adesso vabbè, cambiati i ritmi e cambiato anche il consumo. Quindi da buon profeta credi che bene il rato di mare, dai. Vabbè, cosa vuoi che ti dica? Più o meno tutti siamo così, Oh, in Sardegna specialmente, i consumi di birra sono alle stelle. A Sardegna mi pare che è una delle città che vende più birra che di tutte, la regione, diciamo, che vende più birra. Quindi la lucinante che... Ma questa è la Germania. Da produttore al consumatore. La diversa quella che bevono loro. A me non piace, a me piace quella di qua. Non mi piace quella doppio malto. A me davvero un'ichilusa e va benissimo. Però mi sa che gonfia di meno, la loro birra non gonfia come la nostra. Fa bene meno. Se tu lo bevi troppo è lo più che ti buffa. Una volta in Germania ho chiesto un bicchiere di birra, mi ha dato un tazzone da un litro con due manici di quelli un vetro pesanti da 6 kg. Però... E cos'è la birra scura? No, no, era una birra bionda. Ma lo sai che ci sono anche... ho visto su internet ci sono delle macchine che ti forniscono la birra, te la danno gratis. Dei macchinari che te la danno fresca, tu ci metti il bicchiere sotto e bevi. Ma dove? In Germania? Sì. Mi sembra che te la passa la mutua lì la birra, eh? Non so, però c'è... Questo qui stava mandando un filmato dove vive un suo amico e ha fatto vedere alcune cose che noi ci sogniamo. Praticamente metti le bottiglie di plastica e ti danno 20 centesimi per ogni bottiglia. E ti pagano le bottiglie. No, comunque stavo scherzando, il fatto della muta stavo scherzando. Le bottiglie anche qua a Sassari comunque, non so se dov'è, al centro commerciale che c'è lì via Saffi, no non via Saffi, salendo verso la vecchia questura, c'era la questura prima, e lì metti le bottiglie e ti dà qualcosa, o punti, mi ricorda qualcosa, dai. Ce l'avevamo anche noi, a Granada, e poi l'abbiamo tolto, perché c'era gente maleducata, ci buttavano di tutto, palloni, e la tramoggia poi si bloccava, no? E non faceva andare la catena, diciamo che dove buttava le bottiglie che mettevi, no? Ci buttavano di tutto, tutte di più, palloni sgonfi, di tutto. A Corte Santa Maria, capa, bravo. L'avevo capito, sì. Non so. Quello fa tutto quello che facevamo noi. Copione. Ce l'avevamo già da chissà quando la macchina. E adesso è un bel po' che non ce l'abbiamo più. L'abbiamo fatta svoltare proprio per quel motivo, perché non rispettava. Infatti a Porto Torres c'è stata una delle prime, diciamo, città paese, là. Dove hanno messo la raccolta porta a porta perché non rispettavano, ci buttavano olio nei cassonetti, di tutto di più. Gara, ma che è arrivato qua? Allora sapete che da maggio ci sarà la raccolta porta a porta a Chiassassi? Dai, che zona già? Centro storico e buh? No, tutta Sassari. In tutta Sassari, adesso fanno la raccolta porta a porta invece che mettere i cassonetti, una schifezza. Oh, che miseria. Una schifezza perché ho sentito il telegiornale a Cagliari, so cosa fanno. Per dire tu metti la roba nei contenitori, poi passa gente da fuori, ci butta la moneta sua, ce la butta vicino al tuo contenitore e mettono la multa a loro, capito? Sì, l'ho sentita questa storia. È perché così, se uno vuole ci butta la sua moneta dentro il tuo contenitore e poi il verbale lo fanno a te. Dice che il vigile urbano a Cagliari sono molto impegnati, stanno facendo un bel di niente, aprono i pacchi, secondo cosa trovano dentro, si buono impigliato, perché poi c'è il nome scritto nel contenitore. Alghero c'è il codice a barre, cioè loro prendono, gli puntano una pistola e sanno di chi è. Alghero c'è un codice, proprio un codice a barre, ognuno c'ha il suo, quindi c'è poco da sbagliare. E che è un casino, c'è un palazzo tipo grattacielo a Sassa, come fai? Quanti milioni ci devono essere giù? Poi, quello che dico io, uno prende il pesce, no? Lo pulisce, c'ha le liste, tutta la roba che deve buttare, se non è il giorno stabilito, te lo devi tenere in casa, che sia estate, che sia inverno, te lo devi tenere in casa a buttare. Ci vuole un congelatore per la mondezza anche là. Non è una città, avrei fatto solo dei posti piccoli, là. È un casino, dai. Ce la porto in campagna, allora brucio tutto in campagna, dai. E c'è gente che a casa la butta dentro la strada. E poi che può ottenere l'effetto inverso, invece di migliorare e peggiorare la situazione. E a te non li puoi dire, quest'anno non pagano tanto con me, perché hanno fatto la raccolta differenza per aspettare, non li fanno riuscire a come li fa pagare tanto con me. Beati loro, ma qua la stanza non ce la faremo mai, anzi sta sempre aumentando. Sì, vabbè, c'è sempre, non rispettano le cose, anche la roba che va... l'altra con il numeretto, la respirare, ce la buttano lì, una cartoletta, una cartoletta. E lì c'è ancora la cultura lì, eppure lo sai, è gratis, c'è un servizio gratuito, non costa nulla, telefoni, ti danno un codice, glielo attacchi e se lo ritirano, lo lasci giù davanti al portone e se la ritirano. Ti dicono il giorno che la devi mettere, l'ora, e tu vai e la notte, la notte prima la metti, di modo che di domani mattina lì solo la trova. Cioè meglio di così, poi puoi andare anche all'autoparco, vai in macchina e te la ritirano lì. Sì, è vero. Sì, vabbè, se c'è roba grossa, tipo un divano, una cosa, secondo che macchina c'è la tua, magari va bene, ma... Il divano l'ha messo cosa, un Mister B sopra la Mini. Ragazzi, io vi abbandono. Dai, vi... sono scarico, oggi non sono di compagnia, dai. Quindi, dai, vi mollo. Poi se cambia qualcosa magari dopo accendo, vediamo un po'. E niente, dai, provo a finire il sistema al mio telefono, vediamo un po' cosa succede. Quindi niente, dai ragazzi, grazie della chiacchierata, dai. Scusate se non sono stato di buona compagnia per la conversazione, vabbè, comunque dai. Niente, un salutone a tutti, a tutta la ruota del 10 come al solito, a chi è in ascolto, a voi, vabbè, ci aggiorniamo, ok? Grazie mille. Ciao, ma cosa stai dicendo? Scusate, che cosa volevo scusare? Può succedere a tutti di essere un po' giù di morale, di cose, e non averne voglia, vabbè. Buona continuazione, dai, ricarica. Ciao. Ciao Gianni, ancora problemi con questo telefono c'hai? Ho quasi risolto, dai, cioè adesso come standard sta funzionando, però devo riuscire a risolvere qualche altro problemino e poi sono a posto. Andiamo, dai, alla prossima. Avanti Daniele. Gara, ciao già, sentiamo dopo alle prossime se coincide, dai. Va bene, riprendi doppio room. Yeah. Ma così presto, pensavo che fossero già le 7:30, invece sono le 7:20. Io neanche non lo gioco qua, sono rientrato, neanche devo ancora disfare la valigia. Perché partire? No, ero 3 giorni fuori a Sentina, no, questo albergo, dai. Ah, ecco, devi smontarlo. Sì, vabbè, non è che sia tanta roba, però roba per 3 giorni, anzi neanche 3 giorni, da sabato sera fino a stasera, dai. Però, se ti fatti la vacanza. Ma il vento un bel c'era. Ce n'era. Però, siamo usciti lo stesso, abbiamo fatto qualche giro in paese, stamattina i negozi erano anche aperti. Ho trovato una signora che avevo conosciuto in Kenya 26 anni fa, quindi ci abbiamo fatto una chiacchierata, nel frattempo per venire è morto anche il marito, io l'avevo conosciuto insieme, c'era la figlia, che c'è un bar lì a Tentino, il Veliero, proprio all'ingresso del paese, Mario lo conosci? Sì, lo conosco il Veliero. Ma ho visto quel locale lì, ho visto anche una mia ex collega. Mi disse, non lo so, adesso c'è questa ragazza che non mi viene il nome, che anche lei mi ricordo all'epoca era sposata con questo tipo, che ormai sono separati anche loro, e il locale ce l'ha lì, adesso lì in gestione, penso che ce l'abbia in gestione, non lo so, poi di famiglia, di proprietà, che a quanto pare quell'angolo è tutto di loro. Ma sono di Sentino? Sì, sono di Sentino, questa signora anziana, guarda, è una macchietta, se la vedi è un bel scura, abbronzata, ma è un Terminator, fa tutto, va pesca subacquea ancora, è tremenda, va a pescare, c'è la barca, ci ha preso la patente nautica, c'ha quasi 80 anni, ma se la vedi è un demonio. Freddo mascio, dai. cascata fa piacere, poi questa pelle bella scura, sì, c'ha le sue rughe, però insomma sono, fanno la cornice alla sua vita, e si vede che è una donna che ha combattuto contro tutto e contro tutti, e ha vinto lei sicuramente. Sono caratteri che non tutti hanno, voglia sempre di fare, di quelle che non stanno mai ferme, eccetera, eccetera, si danno da fare. Beh, comunque, diciamo, è sempre una bella cosa. E anche a me è capitato di trovare un amico dopo tanti anni, che frequentavo a Sacrofuori quando abitavo vicino a casa. Mi ha fatto piacere ritrovarlo, lui aveva avuto un brutto incidente, è stato operato 25 volte alla gamba, eccetera. Ma poi ci siamo ritrovati e ci siamo diventati amici per la pelle, tutto ancora più di più. In che anno è che sei andato via da qua, tu da Sacro Cuore? 25 anni fa. E quindi ho fatto arrivare io e andare via tu, dai. Io a Sacro Cuore ho fatto tutta la, diciamo, fino a 29 anni sono stato lì a Sacrofuori. Io mi sono sposato, ne avevo 28 e sono venuto a vivere qua, là, qui in zona. Ne avevo 29, sono sposato a 29 anni e qui sono abitato. Sì, vabbè. Sì, a Sacrofuori è comunque costo per i genitori. Vabbè, me lo immagino. Me lo immagino. La gente non c'è più, diciamo, insomma la vita gira in una maniera così strana. Io sento che in questo periodo sono bombardato di salute e mi sento molto, molto in tutti i due fenomeni che mi fanno male, non riesco a alzarmi, dolori fortissimi, piede di lingua, sono un po' depresso da questo punto qua. Beh, quando manca la salute è un po', l'umore cala, ci vuole molta forza, dai, per andare avanti. Ho fatto, allora, muscoli del Voltare, ne ho fatto 4 scatole, poi pomate, di tutti e di più. Il problema è che non riesco a lavorare, capito? Non riesco a inchinarmi, non riesco, sono bloccato, cioè, prendete un vecchio decrepito. Stai avendo un invecchiamento precoce, così, della, a livello scheletrico? Ho praticamente alla spina dorsale un'artrosi importante. E ti crea problemi? Mai creato problemi, adesso. Adesso che si stanno presentando. Vabbè, non c'è una soluzione, qualcosa? E mi hanno dato l'iniezione, ma non mi hanno fatto capire. Queste iniezioni sì, ti calmano, ti tampano un po' qualcosa, il dolore, però poi alla fine riemerge tutto così. Sì, passate quelle ore lì, finito l'effetto, diciamo, sembra di rivivere, no? Quando si fa l'iniezione, sembra, ah, finalmente mi è passato il tutto, mi pongo a cantare, tutto allegro, poi il colpo di nuovo, sta. Perché stai solo nascondendo la, la situazione, non stai eliminando il problema. C'è una mano a loro. Domani andiamo alla dottoressa di nuovo. Via, cosa si vuole fare? Che è rimasto? Daniele. Che me... Vabbè, tu brava massaggiatrice, le conosci, ma buone però. No, zero già, zero, zero. Però me l'avete mandato qualcuno a fare i massaggi, perché guarda, sono proprio giù. Una thailandese. Si battono dalle cinesi, scrivono centro massaggi, non posso. Allora, come quella che c'era qua, in Via Sicilia? In Via Sicilia c'era qualcuno. L'hanno chiuso però, perché facevano ben altre cose, deve essere dentro. Sì, dice, loro mettono centro massaggi, poi fanno massaggi di tutti i generi. Qualche massaggio intimo ci facevano? Tutto. A quanto su io, sai, ho sentito uno scherzo su 105, no? L'altro giorno. Telefona questa tipa facendo la voce della cinese. Pronto, pronto. La moglie di questo qua risponde. Sì, mi dica, con chi parlo? Ascolti, praticamente le ha detto che il marito aveva dimenticato il telefono nel centro massaggi. se poteva chiamarlo per dirglielo, ho cercato per dirgli che il telefono era lì. E questa qua dice, come? Mio marito non va nel centro commerciale. Suo marito si chiama così, e era d'accordo col marito a fare questo scherzo. Ma se vuoi così incantato la musica, già torna a casa. Ti lompo le ossa, ti lompo. Bastardi, va. Ah, che ti l'ha fatto? Ti vuoi fare parte la chita? No. Mi fa piacere, prima ha detto che... Perché sì. Sì, viene sempre, sempre, tutte le settimane. Oh, via. Yeah. No, comunque già, molti scherzi sono simpatici davvero, È quello della bolletta, lo avete sentito? Quale? Praticamente questa qua li telefonano dicendo che non ha pagato la bolletta, questo e quell'altro, l'ufficio non so di dove. Io ho pagato tutte le bollette a base di cassa da me. Beh, e già toccano i tassi giusti già. Dani, tu cosa ascolti? 105? No, M2O. Sì, ascolto, 105 RDS. Sì, anche mio figlio è sempre M2O a palla. E noi non l'ho mai sentito, ma non so manco di rispetto. Tu figurati Daniele, mio figlio, insomma, non so se abbia la tua età, conosce le canzoni, che conoscevo io da ragazzo io, perché M2O c'ha quei programmi dove mettono musica anni 80, che era la musica che andava dai, quando ero ragazzo io. Io sono dell'80, pensa tu. Mi piace per quel motivo, no, è una musica, insomma, non vecchissima, però che fa sempre piacere ascoltare. Dunque, anni 70 e 80 mi piace un bel. Capo, figurati, lui conosce le canzoni che conoscevo io. Non sono mai tramontate quelle canzoni lì. Tu ascoltati M2O già. Ma frequenza c'ha? Cos'hai? 89,6 mi pare, boh. Mi pare 89,2, se non vuole sbagliare. Comunque è lì vicino. Già la cerco. È una delle più forti anche, che si sente bene, tranne che sulla strada di Alghero un po' la perdi, quando arrivi ad Alghero. Poi sparisce. Te lo fa anche a te, vabbè, io non ho antenna esterna, io ho l'antenna sul vetro posteriore sinistro, va. Io lo stesso, io ho l'antenna interna, dai, quelle a filare, diciamo. È incorporata sul vetro, sul lato del vetro, così ce l'hai? Non proprio, l'avevo attaccata ma l'ho nascosta dentro la macchina. Oh, questa sembra, ce l'hai presente quella fare per sbrigliare il vetro? La stessa cosa, sembra una resistenza, invece è l'antenna. E come la mia, così era anche la mia. Non è un granché, però è sempre meglio l'antenna esterna. Squalo. Non lo so, quella non l'ho mai provata, quella della pinna di squalo. Benissimo, ma non per il radio, niente, va benissimo. Che così, la tua macchina... Cosa c'hai tu, Daniele? Un fuoristrada mi hai detto? Cappa! Cos'è, lo puoi dire? Il Defender. Ah, il Defender? Non so se me l'avevi già detto, io memoria, mi sono poca. A Gianni avevo detto che lui era fermo ancora quando c'avevo il Mitsubishi. Il Pajero o L200? Il 200 già avevo. E io ho avuto il Pajero, il V80. La penultima serie, quello l'ultima. Diciamo, dall'ultimo non è cambiato, forse qualche cavallo in più gli hanno dato, però degli ultimi modelli, dai. Hanno cambiato qualcosa, tipo qualche pezzo di qualche accessore, però la macchina è rimasta sempre la stessa, in teoria, dai. Ho capito. Cos'era, un 3,5? Un 3,2, 3,2. Il 3,2, bella. Anche quella se la cava in fuoristrada, va bene. Cos'era, passo lungo o passo corto? No, ho preso il passo corto perché per fare fuoristrada è meglio, dai. Riesco a scavalcare meglio, non mi tocca la pancia sotto. Sì, e poi non si mette storto nelle pendenze. Passo lungo ne soffre di più quando fa le pendenze. Wow, ho fatto cose allucinate con quella macchina lì. Vabbè che c'ha controllo di trazione, c'ha due blocchi differenziali centrale e posteriore. Ma è un treno davvero quella macchina. Mi manca tanto quella macchina. Ma c'è anche la Super Select. Sì, sì, c'ha tutto. Davanti c'è un vericello da 12.000 libre. Di lusso. Io quello ce l'ho, 12.000. Sono andato a casa, si è sbobinato, cavolo, volevo risistemare, che si è rotto il capicorda, diciamo. Si è proprio sfilato dal cavo in acciaio che c'ho, si è rotto il bulloncino, dove lo fermi nell'angolo dove gira il motore. Ma c'è il cavo d'acciaio o il sintetico? No, acciaio, il sintetico non mi fido. Ma la sorta, già, anzi, se guardi i carichi di rotura, quelli buoni, sono superiori all'acciaio, figurati, al cavo d'acciaio. Già lo so, però tutti dicono, ma se poi si spacca diventa peggio una frusta, è meglio quello sintetico. Secondo me se si rompe uno o l'altro, sempre colpo di frusta te lo dà, se te lo deve dare, non guarda in faccia a nessuno. Devi sempre usarlo con criterio, devi sapere quello che stai tirando, non devi mai strappare, poi vuole sempre controllato il cavo, ogni volta che lo usi, se vedi che è da cambiare, si cambia, si sostituisce. Comunque anch'io volevo un acciaio, ogni tanto lo prendevo fuori, lo ingrassavo, lo avvolgevo bene. Sì, basta che tu lo cui, lo tratti bene, tutte le cose, fai la giusta manutenzione, non aspetti che inizia a sfrangiarsi, diciamo, e lui lavora bene. Sempre piegato, arrotolato nella giusta maniera, nella sua direzione, e va bene. Riprendi già! Spirito di avventura! Bello già, una bella cosa! E poi l'hai dato il Pajero? Sì, adesso quello non ce l'ho più, adesso c'è una Jeep. Jeep di marca? Sì, Jeep di marca proprio, americana però, non Fiat, Ehi, aspetta un attimo, c'è il telefono? Ma tu ci vai a fare fuori strada? Sì, anche da poco, l'ultimo raduno ho fatto lì a Itti. Fai proprio le gare? Non gare, sono raduni proprio, più che altro sono per divertimento. Adesso c'è la Formula Track che è quasi una gara, perché ti danno delle coordinate X, no? E tu devi raggiungere con la tua macchina nel minor tempo possibile e facendo anche meno chilometri possibile. Ti scaricano un'applicazione sul cellulare che tu puoi usare, un'applicazione tipo navigatore, dai, per raggiungere il tuo punto che ti danno loro, le tue coordinate, e poi fanno i calcoli, chi ci mette meno tempo, come la strada, ci sono dei premi anche. Questa è proprio a tempo, quindi è una gara. Se no, a me piacciono proprio le passeggiate, l'escursione, andare a vedere posti nuovi, ammirare il paesaggio, per me sono cose belle, dai. Sì, è la passione, ce n'è tanta di gente che ha la passione di strada. Io li vedevo sotto a Usilo. Anche a Usilo abbiamo fatto parecchie piste lì. A volte sono anche un po' arde, poi fai in base alla macchina che c'è, tu dici il percorso, perché a volte trovi una deviazione dove in base alla macchina che c'hai e ti fanno passare. Se tu c'hai una macchina, diciamo, di serie, senza rialze, cose varie, con sospensioni normali, fai un percorso. Se sei di quelli con macchine super sollevate, gomme giganti, cose varie, blocchi differenziali, pneumatici, passi lì e ti diverti di più. Io mai staccherei la macchina lì. Chi me? Da me tu quali percorsi fai? Quindi più difficili o quindi per macchine, diciamo, come sono dalla fabbrica? No, non mi diverto se faccio quelli così. Io penso che ho il più 10. E gommoni. Quattro gommoni c'ho. Tutto questo è una gomma fuori strada, non per essere... Se trovi come sta giusto con 150-170 euro te ne esci. Una mia. Ma sto parlando di misure grandi, no? Misure piccoline. Sto parlando da 2,85. Costa abbastanza. Poi ci sono, se metto la misura originale, con 100 e qualcosa, dai, poi dipende sempre dalla marca e come la fai, te ne esci. E le gomme quanto durano? Dipende, a che tipo di gomma metti. perché se metti quella stradale o quella 50 e 50 va bene, poi sono quelle tassellate che sono più tipo, tipo trattore, dai, disegno tipo trattore per darti un'idea, quelle artigliate, quelle su strada non vanno tanto bene, te le mangia, col caldo se le a lungo andare dopo un po' di chilometri si, con gli anni poi si, si consumano subito. Io ho quelle tacchettate F. Goodrich e vanno bene, già abbiamo anche i nostri fuoristrada, quelle già durano. E lui che avere due treni di gomme quando devi fare escursioni le cambi e poi quando finisci le togli, anche perché sono rumorose, quelle tassellate sono rumorose su strada. Quella che ho io, le BF vanno bene, non sono neanche tanto rumorose in confronto a quelle che fa l'Erma e compagnia cantanti, capite? Sono quelle artigliate, quelle senti proprio il rumore, l'ottolamento, il vu vu vu vu. Cazzo. Io anch'io sono, ho delle, delle gomme miste, dai, 60-40 sono, 60% strada, 40% fuori strada, fango e cose varie. Sì, sì, sì, vanno bene, vanno bene. La mia sulla neve lo stesso, sono andato quest'inverno a Montespada, tranquilla. Vabbè, io c'ho anche, c'ho blocco centrale, anteriore e posteriore, col compressore. La mia c'ha tutto. Ma bianca è la tua? Tappa. A me ti conosco pure. Ma sei un tipo un po' magro, snello? Tappa. E allora abbiamo fatto anche, siamo usciti assieme qualche volta anche, con Spina, con Paolo. Eia. Ehi, quindi conosci Attore? Sì, sì, sì, sì, e che dove è rivenuto? Ehi, nell'ultimo c'eri qui a Iteri. Sì che me l'ho fatto. Io ho fatto anche quel guado del fiume, invece Attore non c'è passato, comunque vabbè lui c'aveva l'88 aveva questa volta, Sì, sì, sì, ha voglia. Non ti ho presente qua, non ti ho presente. Questa volta c'avevo il Cirocchi nero, c'era anche Mariano col padre. Mariano, cioè, questa volta c'aveva un Patrol arancione, rosso, cos'è? Il padre c'ha un Suzuki, il Jimny, grigio. Sì, in pratica Mariano se l'ha venduto il suo. Mariano ha venduto il Suzuki si è preso quel Patrol rosso, spera passa. Cappa, è lui, è lui. Avanti Gianni. È dispendioso come suo. Ma dipende, va. Se fai, diciamo, lo scemo, la macchina te la stacchi. Se poi vai tranquillo, sì, puoi toccare sotto, puoi ammaccare qualcosa, ma difficilmente fai danni irreversibili, dai, danni gravi. Perché la passione, quindi così, è una passione. Quando lo fango porta anche il profondo, ci butto come un maialetto, come si dice. Ti volevo dire, al Formula Truck partecipi? No, non posso, perché sono di matrimonio. Mannaggia, vabbè, per fare, ho il sabato o solo la domenica, dipende da te. Ormai ho tutta fino a fine maggio sono impegnato tra comunioni e cose varie, feste anche di, come si chiama, di pensionamento, ormai sono opzionato, sono. Cava, cava, dai, riprende 5 minuti che mi assento, dai, che sto arrivando. E capa, avanti Gianni. E adesso cominciano i regali, si parla di là. Quello che fare, purtroppo è purtroppo Dio, è andato cose belle, dai, però è una catena, prima o poi, come sono venuti da te, poi tu dovrai andare da loro, dai figli e cose varie, dai, nipoti. Come per la famiglia, sono cose che si fanno volentieri. Tutte quando mi funerali, sì. Meglio di funerale, sì, quello sicuro. Mi stavano raccontando una storia di questo tipo nel Norese, lì si usa dare anche somme cospicue, no? E sono capitati, mi sembra 3 o 4 o 5 in un mese, ha dovuto chiedere un finanziamento, ha chiesto. Salutina, e poi ci tengono. Io mi ricordo che un'amica che si è sposata a Musini, gli hanno riempito il letto, gli hanno fatto una specie di ventaglio, tutto di 100 euro. Hai visto? Lì nei paesi a colpi di 500 euro a testa danno lì, cioè come regalo. Sì, sono ricchi tutti i paesi. Vedi, solo per il coso, per il fidanzamento, non so quanto ce l'ha fatto. Poi per il matrimonio, so. La cravatta non si usa più adesso, prima si faceva la cravatta. Ma ultimamente è un po' che non è vero, Era un po' antipatico, dai, a me non piaceva molto, lo sai. Lo facciamo gli amici per dare un aiutino in più, però era preso sempre un po' di malocchio, con l'occhio storto, perché insomma io già mi sono privato, cioè ti ho fatto un regalo, devo ancora mettere soldi. Infatti. No, ma poi era brutto come, perché secondo chi trovava ti faceva, se avete di poco, allora noi cosa facevamo? Andavamo in greffa, mettevamo tutti i soldi insieme e li davamo tutti insieme, quindi chi metteva 10, 20, l'altro metteva 30, capito? E loro non sapevano quanto è diverso. E come tavolata, dai, partecipavate come tavolata. Allora, no, perché se ti faceva, tutti si girava, allora faceva, cioè... ci rimane di male, dai. Abbassa, guarda. C'è un po' gare di Ferragino, la studiare, della campagna. Io al mio matrimonio ho chiesto di non farlo, la verità. Ho chiesto di... le salterre, gli amici mi non volevano fare, non ero detto che no. Non mi piaceva. Insomma, no, non è bello. Comunque... si sta perdendo come usanza anche quella della il boccione, cos'era, il bottiglione. E poi cosa faceva? L'ultimo petto poi lo mettevano all'asta con le due famiglie, i genitori, capito? E quindi dai, ancora dare soldi questi qua, già erano esanimi, ormai avevano pagato pranzo e cose varie. Erano prosciugati. L'ultima truppiata, l'ultima strizzata. Vabbè, però mi hanno cantato sulla canzone, gli hanno già fatta essa di Guiduari, quello lì me l'hanno cantata, perché parenti di mia moglie erano tutti moretti, capito? Quindi mi hanno cantato in sardo quella canzone. Sì, già la conosco. La conosco, no, parecchie persone si per cantare quella canzone, nei paesi specialmente come dici tu. Sì, io sì, lo chiedo, Rani, Capragalini, Nuvolo, era tutti quelli parecchi, perché dalla parte della madre e del padre sono di Caragiolo. Non ho capito. Già sono cose belle, anche le serenate che facevano prima, andavano a casa della sposa. E lei si usava di nuovo, lo sai? Kappa, è diventato Daniele? Kappa, eccomi! Però, Daniele, io l'altra volta vicino a te ho sentito di Saburuzzi, cantando, facendo, e ti sposerò perché ha cantato questo, lo sposo da giù, e poi la sposa si è affacciata, erano detto scendi giù, erano tutti con lo spumante in mano, eccetera, eccetera. E praticamente c'è stato l'incontro, giù hanno fatto tutti gli applausi, hanno fatto il brindisi, insomma, con gli spugni. L'importante è che trovi vicinato tranquillo, C'aveva un impianto zero che era allucinante, c'erano due casse allucinanti, si sentiva un bel bene. E che ora era? Che ora erano? Erano orari decenti, spero. Di sera era, verso le 8:30, le 9, quindi. Ma così va bene, mai dove sto certi proprio mezzanotte, alla 1. Poi di domani si sono sposati. E allora, sono cose simpatiche, dai. Napoli, a Napoli c'è tutta la tradizione, se non fa la serenata non si può sposare. Per forza la devi fare a serenata, Daniele, ti fatagliela. Zero. Io mi vergogno al vacca per le buche in mano, non ci credo, mi senti un malento. Addirittura, già. Mi fa strano, buco. Lui è anche quello, abbiamo già dato, dai. Stato dimenticato. Beh, dimenticato, no, dai, non sono cose che si dimenticano così facilmente, penso io. Vabbè, no, vabbè, c'ho delle fotografie, sono bravo. E c'è cosa passate, no, non dimentichi facilmente, ma quando una cosa poi finisce, rimangono ricordi, dai. Dani. Ehi, che me. Ah, io già, prendi un fuoristrada e vieni con noi a farti un'uscita. Sì, così per la schiena. Mi raga, mi brutto, di tutto, prendo il culo. Sì, glielo fra, come sono le nostre uscite? Vai tranquillo. Poi io la capota è molto spaziosa, quindi puoi saltare quanto vuoi. Tipo di più. Ah, te la apriamo la capota, mi. L'altro giorno l'ha fatto l'ascensore, dal colpo, come avevi, boom, mi ha dato un colpo, mi ha fatto vedere un dolore avvicinato. Eh sì, no, ma già sono abbastanza morbide, le mie sospensioni sono morbide, dentro non senti niente, a meno che non ti metti a correre uno scemo che salti in aria. Io ne ho visto saltare tutto come le moto da cross, che saltare nelle montagne, boom e brincare. Oh. Io ho visto anche capottando e su internet. Noi facciamo uscite tranquille proprio da... Infatti l'organizzatore prima di partire ci fa una specie di briefing e ci lo dice, mi raccomando, qui siamo per divertirci, ci sono famiglie, ci sono bambini, ci sono donne, senza fare gli stupidi, senza uscire fuori dai tracciati, perché insomma siamo ospiti dei pastori che gentilmente ci fanno passare nei loro campi, quindi rispettate le regole e vedrete che tutto andrà bene, infatti già è così, dai. Bella era quel discensore che abbiamo fatto da poco all'ultimo raduno, che poi dove passa anche il Formula Track. Ma l'ultimo che abbiamo fatto lì a Roditiri? Caffa! Ah, io in certi punti mi ha sorpreso anche quella macchina, pensavo che per esempio quando ho fatto il guado ho detto basta, si ferma e inizia a girare a vuoto, e invece sono salito bene tranquillo, conta che la macchina era piena di, cioè ero in quattro, più la porta a frigo, dietro roba da bere, roba da mangiare, oh non ha battuto ciglio, si è arrampicata tranquilla, gomme normali, gomme di quelle 60-40 dai. Va bene, va bene, quando c'è il peso va bene, c'è più attrito. Ma è salita? Poi sul bagnato, cioè, la roccia era un po' bagnata perché erano già passati altri, capito? Manco fiumi, cosa fanno per sa? Sì, c'era un guado di un fiume, non c'era tantissima acqua, eh. Vabbè, non è che puoi galleggiare. Io poi non ho neanche lo snorkel, non ho neanche il boccaglio, invece mi sembra che lui ce l'ha, vero? Tu ce l'hai lo snorkel? Cappa, c'è anche le bombe dell'ossigeno, la mia. Cos'è il nostro, c'hai? No, già c'è lo snorkel, c'è anche il filtro impermeabile, diciamo, è messo quello rivestito di carbonio. Quindi lui potrebbe camminare fino alla con la capota, eh? Oddio, se cammino con l'acqua alla capota, annego io e metto tutta l'acqua dentro in quella macchina. Eppure non so se hai visto qualche video su YouTube, c'è uno che va proprio totalmente sott'acqua e dopo un po' riemerge, ma lui è proprio sott'acqua in quelle frazioni di minuto. Sì, non l'avevo visto, ho detto ma cacchio fa questo, ma poi lascia perdere la persona relativamente, sì, quando c'è aria e respiri non ti emergi anche tu, vabbè, ma poi da tutta l'impianto elettrico, queste cose qua, Eppure cioè, non sembra un video camuffato, è una cosa, sembra reale. Poi apre lo sportello e esce e fa un altro fiume in terra. Avete parlato in due? Questa è gente che se ne frega, ne faccia una e compra un'altra, ma è gente che va di là. Ma non lo so, molti infatti hanno queste macchine vecchie solo per fare fuori strada, solo per divertirsi. Io invece come finisco una lavata, sì, i graffi mi rimangono, perché passi in posti un po' angusti dove lo spazio magari è 1,5 metri, la macchina è 2 metri di larghezza e ci passi lo stesso, e senti i graffi, li senti, rovi, legna secca, canne, di tutto trovi. A me era poco fra, perché avevo fatto l'uscita giovedì, si è infilzato un ramo, un pezzo di tronco, non molto grosso, tra il tallone e il cerchione. E cosa hai fatto? Cosa ti ha fatto? L'ho portata, sono andato dal gommista, l'abbiamo sgonfiata e siamo riusciti a toglierla, così. È rimasto incastrato così, male, ti perdeva la gomma? No, meno male no, infatti non l'ho toccata io tutto il viaggio, perché abbiamo rifatto la scorsa settimana di nuovo quel percorso lì, no, che abbiamo fatto all'ultimo raduno, tutta quella strada lì. E dopo mi sono fermato, ho visto questo pezzo di legno proprio conficcato tra il cerchione e la spalla della ruota. È proprio dentro, si è tagliato a pelo di bordo di cerchione. Che pressioni usi tu? Basse? Un po' sì, perché se no inizia a rimbalzare da tutte le parti, se la lascia a 2 è troppo, io di solito lascio 1,5, 1,8, poi se metti bedlock puoi fare anche a 0,5, 1. E roba da insomma, quando fai arrampicate sul pietre, così meglio che siano più sgonfie possibile. Sai che ci vogliono cerchi quelli che non sta per non stallonare, dai. Infatti, quando diventi poi quella piastra, i miei si possono fare, e che cosa un moto farli? Poi ci vuole gente esperta, e qua non ce n'è, capito? Che ci vuole la doppia piastra. Io invece stavo guardando, l'altro giorno sono salito a Usilo a chiedere, c'è un fabbro, per sapere quanto mi prendeva per farmi tutto il fondo in lamiera da 4 mm, quella striata, dai. Ah, quella, ho capito, la mandorlata. Però no, non alluminio però, quella zingata. Molto ti ha chiesto. Ma per proteggere diciamo il cambio, da metà la macchina fino alla coppa, sulle 300 euro mi ha chiesto. Dalle 300 in su mi ha detto. Poi vediamo, dice, cosa ci vuole, come manodopera. Non la conosco sotto, qua è quella macchina, non ho mai visto neanche tante modifiche, la vetta silica. Ci bazzico poco. Oia, e Tesla non te ne fai? Ma non lo so, non sono sempre stato così indeciso, perché io vado quando c'è un po' di tempo, non sono stato mai legato più di tanto. Lo so, anche perché poi ci sono anche altri eventi sportivi che facciamo, capito? Non facciamo solo uscite. No, capo, lo so, no. Poi c'è, come si dice, Paolo affianca sempre il rally e cose varie. Eia, facciamo anche quello, poi adesso mi facciamo assistenza al Formula Truck, questo è il primo anno che arriva qua, e altre cosette, dai, giusto per a contorno. No, ripeto, quando c'è un po' di tempo e coincide con il mio tempo libero, riesco a, magari ci vado, sì, vai, pagherò qualcosa in più, però non fai. Non è quello che è un po' importante, che coincide il tutto. Va bene, riprendi Gianni, ti stiamo annoiando con questi discorsi. Si è addormentato, vedi. Gianni che? Oh, K.O. Gianni ha abbandonato il gruppo, mi è uscito sul display del baracchino. È andata a comprarsi il fuoristrada. L'abbiamo messo in gara, come si dice. In ballo, Doppio room. Cambiato canale. Mi sa che non c'è nessuno anche nelle altre parti, anche il mio è zitto. No, perché senti, se tra qualcuno lo senti? Con questo, col 48, se c'è gente in qualunque canale io lo sento, Me ne accorgo subito perché inizia a mutolirsi. Vai in abbattimento? Ma di brutto. No, questo è anche troppo sordo come apparato. A volte sento, ma deve essere proprio sotto casa. Di un canale, mi può disturbare un canale. No, questo sia 5-6 canali ti porti lo strascico, Vabbè, tutto non si può avere, ma è più sensibile. Io anche oggi, vedi, Antonio non lo sentivo, capo, mi dà un fastidio perché lui magari mi sente, io no. Antonio qua stava arrivando pulito dalle mie parti, era 5 ma non pulito. Poi ha urlato, sta iniziando a strappare di brutto e non si capiva più la modulazione. No, anch'io infatti a volte purtroppo non riuscivo a capire quello che diceva. Il segnale era proprio, neanche si muoveva l'ago qua, segnale di uno, la radio di uno appena percettibile, ma basta un po' di rumorino di fondo e l'ho perso subito. Cava, poi qua c'è un po' di QRM, non so perché, prima era molto, molto pulita la frequenza, diciamo. Adesso invece c'è qualcosa che disturba, intanto si alza, si abbassa, No, qua zero, l'ago difficilmente si alza, non si muove mai, per il QRM. Conta che l'ho un po', come si dice, fatto diventare un po' più generoso questo Smith, perché prima era ancora più sordo. Il mio lo stesso è avaro questo Smith, vorrei votarare e vedere un po' cosa dice. Cava, ma adesso l'ho chiuso, non ho più voglia, basta, stop. Già è così, perché ne state arrivando tutti i 7, 9. Guarda, tu sei 7 di portante fissa, 9, anche 9, 5 modulati. Pensa a 2, sto usando 2 watt io. Quando fischi, quando arriva, quando parli per esempio? 3,5, 4. Però questo non va bene, questo saranno dei numeri, questo HP. Ma guarda qui, anzi addirittura 9,10 sale lo smitter, da 7, l'importante è fissa. Va bene, va bene. Sì, perché c'è, la modulazione c'è, e il watt aumenta, ho capito. Se poi lo porta un watt, guarda me. Occhio a croce, dovrebbe essere un watt, guarda quanto aumenta. Adesso da 3,5, 4, sale sempre fino a 9,5, 9,10. Modulati. Sì, modulazione. E fischiati qua. E 9,5. Vabbè, aspetta, lo rimetto a 2,5, 2. Boh. Al massimo quanto arriva? 10 bianca e poi 25 mi sembra in modulazione. Prova a aumentare. Aspetta. Ora, guarda un po'. Adesso il segnale è stabile, fisso, però hai perso un po' di radio. Lo so, infatti per quello questa bisogna tenere la 2 watt. Tipo metti 10 per esempio. Era 10 prima, quella che ho perdito un po' di radio. Un avvenimento, cioè 5 per esempio. Sì, questo è continuo, posso mettere tutte le regolazioni che voglio, guarda. 5. Scendi un po'. 4. Ma è così un segnale di 9. Però la radio è sempre meglio quando la usi come la stavi usando prima, dai. Lo so. Guarda, l'hai fatto tondi e tondi. Sì, così per me è la regolazione perfetta, come la stai usando, quindi avevi già testato sicuramente. Sì, poi si attacca la scarpetta, guarda me. Guarda, guarda adesso come cosa dice. È sempre la radio un po', ti mangia un po' di radio. Segnale ottimo. E noi la passiamo, guarda. Aspetta, 2. Guarda un po', 2 watt. 2 watt di ingresso mi stai dando? Ma 2 watt, un watt e mezzo, no, un watt. E in uscita quanto ne hai però adesso? Allora, in uscita sono 70. Va bene comunque, dai, è una buona resa. Cazzo, sei quasi sul più del 30. C'è la differenza? Sì, no, regge bene. Il bello è quello, è questa, diciamo, è la combattimento, la fai come vuoi. Capo, io così sono 7. 7, ma non è originale, dai, c'è di più sicuramente. Guarda così com'è, si aumenta? Quasi a 9, sì. Guarda un po' così. Sono sempre uguale, ma questo è avaro, qua devi metterne potenza per muoversi questo. Se no già, sembra che intorno al 9 qualcosa sull'altra radio. Questo è... Vedi un po'? Sta iniziando a saturare adesso. Stacchiamo tutto, dai. Non si sa mai se la metti qualcuno. Oh, qua per adesso la ventella non ne ha avuto, eh. Io penso che c'è anche un problema di antenna che è troppo attaccata alla facciata, magari non riesce a esprimersi. Vabbè, non è che la mia sia sei più alta, La mia esce un po'. È libera dal tetto, ma non altissima dal tetto. Capito? Agli spioventi. Vabbè. No, la mia ancora è sotto. La punta arriva alla grondaia, dai. No, la mia già è libera. Ma Facebook ce l'hai? Ma ce l'ho con mia moglie. Ah, è a Barrogero. Okay, un account che ho fatto io, ma poi lo usa più lei di me ormai. Peggio del mio, io ce l'ho sempre mia moglie. Non sai così. È così. Va bene. È sempre così, si va a fermare. Ma perché non le sto più usando? Quando sono in radio ho mollato tutto io. Ma ormai lo sto usando a volte per metterci foto, per archiviare foto, no? A volte le lascio chiuse, proprio come si dice con Lucchetto. Non si sa mai che perde il telefono, si brucia la caschetta, almeno le foto le recuperi, sì, fra, è così, va bene, meglio così, almeno ci facciamo due chiacchiere e lasciamo questa cavolo di mondezza lì, l'impianto di social. Ma una lavanderia, come si dice, una lavasecco, Cosa fra, che stavano parlando qua? Ho detto una lavanderia industriale, questo Facebook. Inno, se non sai, sai anche quello che non vuoi sapere. Ecco, qualcuno anche esagera anche. Sì, quello sì. Ma io leggo qua le notizie ufficiali, no, mondezza o fesserie e basta, giusto così, qualche foto che pubblicano e basta. Vediamo un po' se è rientrato Gianni. Oh, ci ha abbandonato proprio. Te l'ho detto che è già andato a procurarsi il fuoristrada. Ah, è domenica, non è che sono chiuse le concessionarie, anzi lunedì oggi. Lui è andato su subito e sta iniziando a contattare. Lì è sempre aperto, quindi hai ragione. Se no va da Pinuccio e c'è uno bello pronto. Pinuccio chi? Il Land Rover. Ah, giù. Ma quelli che usano per fare promo? Hai visto? Il suo arancione e quello nero Tomb Raider. E quelli quando li venderanno, bu? Oh, sempre che siano in vendita, No, quell'arancione se vai già te lo vede, ma ti costa quanto una casa. Ancora? Non è sceso di prezzo? Zero. L'ultima volta che l'avevo chiesto ne voleva intorno ai 70, 80 mi pare. Oh, due Pajero mi escono con 80.000 euro. Ma due nuovi. Se no, se prendi quelli da 5-6.000 euro, nuove, perfette, in ottime condizioni, chiamate te ne escono, come ti fai un garage di Pajero? Ah no, con 80 ne prendi due nuovi davvero, forse te ne vantano pure. Pure il coso il Fremont, lo sai, quello del Fiat, quello cassonato. Non so cosa ha fatto la Fiat, il Fremont cassonato, Il fullback, che è l'L200. Ma poi il mio collega ci ha preso, non so se lo conosci, un fuoristrada della Renault, una specie di pick-up. Sì, l'ho visto. Ma stanno nascendo tutti dai telai dell'L200 alla fine. Sono tutti a tralicci come l'L200. Cambiano un po' la carrozzeria, attacca e la stanno piazzando sopra. Ma da lontano io domani sarà quei barratoni che è tutto scena, no? Invece ho visto che c'ha il telaio a longheroni, e c'ha le ridotte, c'ha tutto, C'ha sei marce normali più sei ridotte. Sì, te l'ho visto. Fullback lo stesso, quello Fiat, sono le ceneri dell'L200. Quindi l'L200, il treno dell'L200 li cambi lo chassis, diciamo. L'unico problema del Pajero è che non lo puoi sollevare più di tanto, capito? Perché è a sospensione indipendenti. Molto... a me piace molto come macchina, però è un po' ha i suoi limiti, dai. Lo so, il Pajero invece è fatto a telaio intero, non è fatto più a longheroni. Io facevo le 200 e ho fatto pure il body. Body e sospensioni, era bella quella macchina. Sì, ma io sono sceso a... la mia era proprio normale, di serie. Sono sceso, come si chiama, a Tineri, tranquillo, non ho toccato da nessuna parte. Cioè, siamo scesi con Mariano, anche lui mi ha fatto qualche dritta, allora intanto scendeva e si dava le dritte per non toccare. Giustamente, qualcuno ti guardi magari sotto è sempre meglio, secondo il tipo di macchina c'hai. Sì, hai visto quella di Donato, tu, il Pajero di Donato? Sì. Hai visto quella, tutta originale, come il cavolo si arrampica, che sembra peggio di un ragno. No, io molto, ripeto, mi manca molto quella macchina. Io anche dove scendo a pescare, io lì verso il mare di Furi, sto sceso anche con questa, ma con qualche timore. Non tanto a scendere, a risalire. Qua c'è quella, era proprio un... Poi sali piano piano, non devi accelerare. Questa devi avere un po' più di abbrivio, ho capito. Fai l'altro e cambia automatico. Eppure viaggia, e viaggia bene. Ma infatti quando io alle volte mi incastro lui mi prende in giro. No, no, a me mi ha dato solo soddisfazione quella macchina. Io avevo il cambio manuale, però è... Cambio manuale a 5 rapporti. Invece questa ce l'ho automatico e ti dico che va bene, lo sai che... Anzi, in certi versi è anche meglio il cambio automatico. Sì, gli ultimi che stanno facendo sì, perché almeno c'hai sempre la presa, non vi stare con la frizione, e poi se hai bisogno di cambiare, cambia subito e tu neanche te ne accorgi, Per dire, certe salite magari, o spunti direttamente in seconda, ridotta e vai, oppure spunti e metti subito la seconda e parti. Tu figurati con questo, tu sei in salita e ti fermi, cioè togli i piedi dai pedali, non torna indietro, cioè rimane ferma la macchina. Poi accelera e cammina, e riparte. Come che, non so, che stai tirando un freno a mano. L'antistallo, già, dai. Non torna indietro. Una bella sensazione, perché non è come ripartire e giocare di frizione. Ti fermi e batti e riparti, tranquillo, senza fare danno. Bella. Mentre Federico c'ha il Pajero, però è quello manuale, a passo corto. Il gemello lì, quello di Donato. Sì, no, li conosco. Ma io avevo il modello dopo quello, dai, più nuovo, più recente. Il V80, quello forse il V60 quello. Quello è il 3, il 3.2 mi sembra che sia quello di Federico, o il 3.000, blu. No, ci sono anche 3.2, no, forse c'è qualche cavallo in meno. Io, mi sembra il mio è forse 170, mi sembra che fosse il mio, sì, 170. Invece le ultime adesso sono 200, le hanno portate a 200 cavalli a parità di cilindrata. Buono. È quello che serve, cavalli e coppia. Quando con Mariano andavamo a provarla sulla sabbia, dove saliva lui col suo zucchino, ci salivo anch'io, Adesso Gianfranco cosa dice di questo Patrol? Cavolo, è vecchissimo. Sì, ma quella l'ha presa solo per fare fuori strada, Poi ha preso un altro Suzuki passo lungo, ha preso adesso, su sempre... ma cosa aveva prima? Il Vitara, dai. Ehi, vabbè, io non è che sono tanto amanti dei passi lunghi, La verità si ricca. No, non mi piacciono, non li reputo fuori strada, mi piacciono quelli piccolini, ma sono corto. Ma infatti quella l'ha presa adesso per in previsione di un aumento di famiglia, Ah, ecco, si è già premunito. Ha fatto bene, allora. Sì, quell'altra era troppo piccola, non ci stava niente, dai. Mi sembra che avesse anche l'impianto a gas, quindi qua fanno zero. Vabbè, piano piano si fa famiglia, si aumenta. Adesso è la macchina più grande. Per giocare, diciamo, per divertirsi si è preso questo patro. Chi è? Avanti. Adesso, ma tua moglie la punti in queste, diciamo, gare che fa? Sì, ha voglia. E lei è il mio compilotta, Me poi Franco già l'ha vista. No, anche io la porto, ogni tanto qualche volta comunque se ne è scesa, qualche passaggio un po' pericoloso, a paura a volte se ne scende. Lo vedi Gianni, ti abbiamo rilanciato 12, 13, 14 volte. Gianni, hai comprato il fuoristrada per caso? A prendere le pastiglie e a fare da mangiare a Tyson. Vabbè, come sta Tyson? Si è ripreso, sì, dal trauma? Sì, grazie a Dio, sì. Non fa avvicinare molti strani, ma comunque... Bene o male gli ho sempre preso, dai. Mi è anche piaciuto il pelo, mi è guarita la ferita, mi ha tolto i punti dall'orecchio. A livello di carattere è cambiato? No. Lui è stato sempre un po' così, due maschi è un po' più di noto. Se non è che trova di più maschi di quelli che offre in lui, allora non è male. Se no, con gli altri maschi è sempre un po' più di noto, ma con le femmine già gioca. E a livello economico nuda, no? Allora. Oh, yeah. Umano di lui, non è gente da pretendere niente, se hanno certo obiettivo qua non c'è una droga, capito? Ma immaginavo, fate giù, già eri, avevi già visto bene, dai. No, non me la frega niente, interessate il cane che quello è in primis, la cosa più importante, dai. Avanti Daniele. Ecchive. E beh già, su subito eri a comprarti fuori strada. No. Su subito ho messo le cave in vendita, se ti fosse interessato. Cava. C'è o me, ce ne sono tanti, un suzuchino ti prendi a pochi euro e stai viaggiando. Poi Daniele, no, ho preso la macchina nuova da poco, adesso mi sfrutto la macchina. Cosa hai preso già? Tipo quella GPL benzina, 1.400 tubo. Vabbè, non c'è il kit di rialzo per questa macchina? Ma non lo so, non mi è mai venuto bene. Di solito le macchine le ho abbassate sopra e dietro, le ho fatto l'assetto, come c'è il 95 giardini con l'assetto. No, noi solleviamo, andiamo su. Noi andiamo al contrario. Una certa età, poi. Ah, vabbè, poi con l'aiutino, va. Poi abbassiamo, mettiamo la scaletta, anzi per noi ci vuole la scaletta. Eh sì, la tua è alta, Mi sembra di aver comprata fuori quella, è vero? Mia moglie c'ha la scaletta dalla sua parte artigianale, fatta in casa. Quella macchina c'ha una storia, fra. Quella macchina era qua in Sardegna, di Arbus. Poi è finita in Sicilia, c'era questo che la stava vendendo, facendo permuta con una macchina a suo gradimento, io ho fatto la proposta dell'L200, c'è stata e me l'ho scesa qua. Mi sembra me l'avevi accennato, Palermo se non sbaglio, così era. Eia. Sì, mi ricordo, l'avevi appena presa, ancora neanche la conoscevi bene, i blocchi non entravano bene, ancora non era sfruttata al massimo ancora, dai. Diciamo che erano un po' inchiodati, perché quelli ogni tanto si inchiodano, capito? Bisogna farli lavorare. E quindi erano le prime uscite, erano. Io c'ho già 3 anni, capito? Sì, mi ricordo. Sì, fuori strada bisogna usarlo. Infatti, dicono, diffidate quando comprate una macchina usata, diffidate da quelli che scrivono mai fatto fuori strada, perché a volte è peggio. È peggio sì, perché poi trovi le sorprese. Io anche lì ne ho trovato sorprese, tra virgolette, perché ho dovuto mettere... Ho cambiato gli alberi di trasmissione, li ho messo quelli a doppia crociera, rinforzati, poi ho dovuto cambiare i puntoni perché quelli che c'erano non stavano lavorando bene e basta, e poi ho fatto, me l'ho revisionata io, fesseria alla fine, boccole e tessine, capito, e basta. E dove puoi risparmiare, risparmi, beh certo. È così. Oh, io su questa invece ho trovato un motore con pochi chilometri e ho mandato in pensione l'altro, ci ho messo questo che è nuovo, dai. Cava, hai fatto bene. E in pratica chi ce l'aveva l'ha tenuta, questo siciliano l'ha tenuta in marcia per 6 mesi quando l'ha presa. E poi è rimasta sempre ferma sino al momento che non l'ho presa io. E ce l'aveva quasi un anno. Quindi a Puglia che ha messo buffa. Ma in origine chi l'ha modificata? Qui in Sardegna o in Sicilia? Tutto qua in Sardegna, ci avrà speso una barca di soldi quello per farla così, Capito? Ho cambiato solamente 2 ammortizzatori posteriori, perché quelli erano già andati. Ho preso 2 terrafirma più 10. Poi il resto è tutto... Avrò speso sì, no, guarda, forse 1.000 euro l'ho sistemata. Per fare tutta quella elaborazione ci vogliono un sacco di soldi. Parecchie migliaia di euro. Costano un sacco quelle modifiche lì. Avanti, Gianni. Sono in concessionario, è andato. Gianni, te futtende, fra. Vado qua, vado là, adesso subito, Ma cosa? No, ero distratto, dai, stavo facendo roba al telefono. Intanto fra poco vi lascio, che lo porto giù il cane, anche se non mangio nessuna gara. Mandalo da solo, già lascia la strada. Sì, così le trovo due. Come lo mando me lo fregano. Tu li metti? Hai visto quel sistema che sta facendo la Vodafone, che c'ha quel sistema satellitare collegato col tuo telefono? Tanto non è bello, come non bello che vuoi dire. Perché ci va con gli altri? Ma cosa? Se ieri avevo stato in riserva, non lo conosce, non lo conosceva, l'ho dovuto accarezzare, perché sennò si può avventare, capito? È un po' così, non fa la gente avvicinarsi. Infatti mi dico sì, bravo, è un cane, non lo tocchi, perché se non si sanno opporre ti devi avvicinare, farti odorare, se lui scodintola vabbè, se tiene ancora dritta la saluti. Si bisogna conoscere gli animali, Bisogna sapersi porre, non come ha fatto quel tipo l'altro giorno. Erano le 10:30 di notte, no? Avevamo un tipo davanti, io stavo rallentando per farlo andare avanti. Per non avvicinarsi al cane, tutto il colpo si blocca, si mette la mano davanti, il cane come ha visto lui, se non lo tiro lo si spiega. La Museruola eri? La Museruola ce l'aveva, no? No, non ne metto più Museruola, già è successo quello che è successo, è un casino, capito? Se ne metti la Museruola non si può difendere, hai visto cosa gli ha fatto il tipo perché aveva la Museruola? E quello è, cavolo. Se no si sarebbe anche girato, non è? Magari l'avrebbe anche preso, non si sa, però almeno si sarebbe difeso. E invece lui la musicata e basta, e per poco non me l'ha ammazza, se non c'è stata quella ragazza che ha colpito, non sapeva come fare, avrebbe strangolato. In teoria cosa ha fatto questa ragazza? Come l'ha chiappato? Che cosa ha usato? Che tecnica? Ha tappato il naso e lui quando si vede che non respira per la bocca. Ah, solo così. Comunque sicuramente è coraggiosa sta tipa, C'ha il piccolo anche lì, quindi sa come fare. Infatti l'ero uscito su Facebook, se avessi fatto sorpresa non l'avessi abbastanza. Mi ha scritto che quel tipo non è tipo da avere cani così, che invece là il cane però lo sa gestire, invece quello lì non li mette né in Museruola, né in Italia, niente, capito? Per cani lì ha detto per legge bisogna avere la Museruola in Italia, sempre, e lui ce l'aveva, ma la maneccia della fetturina. Insomma, è più cane lui del cane, dai. E ringrazio che non lo denunciamo. Ma io direi che nei queste spese che hai sostenuto, dai, importante come dici tu che si salvi il cane. Se l'ho trovato con la tipa che gli ha aperto la bocca, mi ha detto, beh, come sta, sai, dove è? Poi si sta riprendendo, si sta crescendo il pelo, la coppa si sta ferita, tutto qua, piano piano si sta riprendendo. E abita lì in zona da te sicuramente, no? Sì, vicino a casa. Vedi, a volte sei stato anche fortunato, dai. Se stavo parlando con lui, infatti lui mi ha detto, perché li metti la Museruola? Gli ho spiegato, ho detto, perché a volte, se non mi piacciono le persone, li si ammetta addosso. E molta gente non si sa porre, quindi mi devo stare un bel attento. E lui mi ha detto, ma tu di la Museruola che non la portai giù. Nemmeno detto la cosa. Vediamo questo cane a radio. Oh! Pardone che l'ha chiamato e lui finita insomma, non lo sapete preso, dai. La prima l'ho scattata la cuccia, dopo quando era in terra l'ha presa al collo, e poi l'ha preso sulla loricchia il collo, poi sa che fa oggi quel cane. Cos'era? Molosso, cos'era? Era un pitbull. Fa parte dei molossi così? Pitbull mi pare di no, non lo so, non te lo so dire. Boxer, il dog argentino, tutto questo. Però il piccolo non lo so se è una razza seduta, perché sono un insieme di razze. Sono tutte cose modificate. Non so se c'è un bel cane corso, però è un bravaccio, è la verità. Guarda che mi veda, anzi, gli metto le mani addosso perché davanti che lui mi sbava addosso. È un bravo cane, la verità. Ma sbaglio si sentono spagnoli sotto. Io non si pare su. No, io sento qualcuno sotto. Io tanto meno. Se provo andare sul 12 superiore, vedo se c'è propagazione. Cava. Sta arrivando intorno a 3 qualcosa. Magari, Daniele, se faccio sempre il tuo qualche camionista, tu senti parlare in spagnolo. Sembra spagnolo, poi non, ripeto, non capisco bene che cosa sia, ma è qualcuno qua in Sardegna? Vabbè, questo civiltà, scusate. Ma cosa, già, ce l'ho lì parcheggiato, ma non mi piace. Non mi piace, ci ho modulato qualche volta lì con Pompone e poi non so con chi, ma basta, zero. È un po' fredda la sedia, no? È molto meglio l'apparato lì, con Cabaragosa. Ma, e non prendo, mi faccio una multichiamata, recluto un po' di amici e mi faccio una multitelefonata. Sì, ma poi è fredda come cosa. Sì, diciamo che ho una cosa. Se si usa l'apparato, non si vuole mettere antenna in macchina, e cosa lo può usare? C'è gente sul 25. Dai, ripeti che mi ha sentito 2 secondi. Chi c'è? Ciao già. C'è gente sul 25 già. Stai innescando? Ho sentito. Ci sono ancora? Alla radio, era così basso davvero. Come? La mia radio così passa davvero. Adesso di nuovo con l'eco manetta c'hai. No, sono io che sto parlando sempre. Perché questo microfono pure c'è un amplificato, devi parlare da vicino. Sì, no, siamo ti avvicini troppo, va bene. A volte invece ho difficoltà proprio a capire le parole, se è troppo forte la radio, se sei troppo vicino. No, questo è un altro apparato, non è quello di tocco qua. No, però l'effetto eco è... a volte non fa capire bene le parole. Sono troppo alto. No, dipende, se alzi molto la voce, se o parli troppo da vicino. Invece da lontano proprio non si sente l'eco, però non disturba. Così va bene, carità. Perfetto, così per le mie orecchie è l'ideale. L'altro giorno ho messo l'antenna, ho fatto una staffa praticamente che parte dalla ruota di scorta, però non rende, ho fatto pure prove, praticamente con la base magnetica spara più forte. Ma cosa ho messo? La palazza? Ho messo una piastra che va dal dado della ruota di scorta, diciamo da dietro la ruota di scorta, e poi esce sul fianco e l'antenna rimane metà e metà, dai, metà coperta dalla parte posteriore dell'auto e metà esce su, sopra la capota. Però non ha un rendimento buono, Diciamo che va bene quando fai fuori strada, perché con l'antenna sopra mai faccio danno. La piastra è lamiera, non è acciaio, ma è una lamiera da abbastanza spessa, penso che sia da 2 mm. Ho visto che col test l'ho controllata, la massa gli arriva, però non è come sulla capota che ha un piano perfetto riflettente. Perde un sacco, ripeto, ho provato con la base magnetica e gli fa 10 a 0. Ma la base magnetica è quello che si sta? No, ne una che è enorme, come base magnetica difficilmente la stacchi. Io la base magnetica non la posso fare. Dipende dall'utilizzo che ne fai. Se lo usi ogni tanto, come me per esempio quando faccio solo uscite in fuoristrada, che a noi ci serve per essere in contatto con le altre macchine, perché può succedere un problema o qualcosa, ti avvisano, attenzione, fermatevi, e c'è da fare soccorso a uno, a tizio o all'altro, e più che altro per quello. Ripeto, l'ho messa dietro la ruota, l'impianto fisso, e posso usare sia uno che l'altro, il cavo l'ho già passato, Adesso devo sistemare il foro dove è entrato il cavo, perché ho dovuto togliere il gommino. Lì adesso ci metto qualche po' di silicone per tappare quel foro, devo trovare qualche soluzione, oppure fare un gommino diverso in modo che ci siano sia i fili elettrici sia quelli dell'apparato. No, no, è un gommino dove passano i fili giusti giusti, quelli che ci sono, ed è conico. E poi è pieno, adesso è tutta roba piena. Ecchi me! Ok, vedi entrato, dai, riprendi. Avete parlato in due, Riprendi Gianni. Sì, intanto non si vede, anzi stavo cercando qualcosa di più morbido, tipo, non so, tipo plastilina, qualcosa del genere. A fargli una specie di malloppo e tapparlo così. Oppure silicone, come intanto non si vede, rimane dietro la telescopa, Il mazzo c'è chiesa le carrozzine. Capo, qualcosa di che non faccia entrare la polvere, neanche l'acqua. Insomma, che protegga un po'. Ma mettici silicone, fra. Oppure silicone. Del silicone magari se la posso fare per non rovinare tutto, isolare un po'. E allora? E sei a posto, o se non ti entrare anche acqua. È una cosa che un domani posso togliere, vabbè, il silicone è già una cosa morbida, puoi togliere tranquillamente. Ma con un taglierino quello, ne sto uscendo subito. Comunque ho staccato il piede, ho fatto entrare il cavo da lì, passa dietro la telescorta, poi va sulla fiancata, esce sulla fiancata sinistra e poi passa sotto i sedili ed esce praticamente sotto i sedili davanti, dai, l'ho portato lì il PL. Ma per la 27 o VEU? No, questo è per la 27. Poi per il VEU altra volta avevo il portatile, il piccolino. Il mio si è... mi è andato in capo la batteria. Cosa c'hai, Baofeng? No, il gemello è... il... come si chiama? Il comunque è un gemello della Baofeng. Fa le stesse cose, identico. Però si è bruciata la batteria. E la verità, faccio prima, con quelle che costano adesso, ogni tanto trovi le offerte. Anche i due Baofeng a 40 euro te le stanno tirando a fianchi. Sì, però ormai sono usciti quelli DMR, digitali. Ok, con 20 euro li trovi, sì, hai ragione tu. Allora, sicuramente la batteria la paghi quanto un portatile. Infatti, questa me la tengo a casa, perché se ti ricordi l'ultimo raduno sono diventato bandito. Non mi trovavano più, stavo usando quella dei commissari. Addirittura. Prima ho parlato qualche volta un po' con Tore, eravamo vicini, dai. Poi c'era anche Antonello. Cara. Poi i telefoni non prendono, già l'hai visto. E beh, per quello che servono gli apparecchi, gli apparati, dai, proprio perché in certe zone dove andiamo noi te lo sogni di vedere un ponte radio, un ponte, una cella, dai, per ripetitori. Cara. Va bene. Adesso aspettiamo alle altre uscite. Mi è finito questo Formula Track, poi bisogna aspettare al prossimo inverno. Però ripeto, prima di fare qualche giro voglio fargli una protezione sotto, perché l'altra volta avevo mancato il tappo della coppa del cambio automatico. Non voglio fare il nuovo danno, capito? Quelle non sono cose belle, anche poi giovedì scorso ha toccato sotto, la sua è già un po' altina lo stesso, non tantissimo, però qualche colpetto già l'ha preso. No, già è sollevata anche quella, no, già una bella macchina, quell'ende lì. Avanti Gianni. E molti riflettono le protezioni alla coppa, sì, no, davanti ce l'ho già, la coppa è già protetta, anche se ripeto, non è una lamiera robustissima, però abbastanza robusta. L'altro giorno l'ho smontata, l'ho di nuovo riaddrizzata con la mazzetta e non è semplice, non è morbida, dai. Però se gliela fai da 3 mm, 4 mm è sempre meglio. Gliela allunghi un po', la fai partire da davanti, magari sotto il radiatore, così ti protegge anche il muso. La mia è stata anche abbassata dalla casa, perché? Perché sono aumentati i cavalli fino a 170, quindi per dargli più stabilità è stata abbassata di quasi 2 cm, sia davanti che dietro. Praticamente se io trovo la sospensione del modello vecchio, non so, del 2005-2004, me la riporta all'altezza originale, però per stabilità l'hanno passata di 2 centimetri. Bastava allargare un po' la carreggiata, poi secondo me. Oppure dovresti mettere gomme a spalla più alta, se te lo concede la casa costruttrice. Non ci stanno, no, devo modificare i parafanghi. E già questa è inserzata, a volte mi toccano. Addirittura. Eh sì, non c'è molto spazio, Non c'è molto spazio. Cavolo, hanno pensato, hanno abbassato senza pensare che poi andassi a toccare. No, devi fare la modifica, togliere quei parafanghi che ci sono, mettere quelli da attaccare a vite su più alti, dai. E poi tagliare sotto, tagliare tutto. Passa ruota, tutto modificato pure. Bello casino, da. Gioia. E va bene. Un appento è fare questa cosa, raga. Ma, devi conoscere i limiti della macchina, dai. Però già con qualche lamiera sotto, almeno se tocchi te ne freghi, dai. Quello sì. Piano piano ti studi i punti dove vanno protetti e te la fai sistemare. Eh sì, ho già fatto uno schema più o meno a grandi linee. Dovendo comprare la lamiera so già più o meno cosa prendere, due pezzi di varie misure, o alluminio da 5 mm, però sempre quello mandorlato, oppure la lamiera da 3, da 4, che più o meno l'alluminio è forse un po' più leggero. Che quel cavolo di mandorlato costa una barca di soldi. Lo so, infatti alla fine opteremo per la lamiera, da. Marocco? Quello fa male alla salute. Poi dai, io rilascio, la mia partitina, il campo, rilascio, ti auguro una buona continuazione del corteo, una buona continuazione. Ciao a tutti, buona serata anche agli ascoltatori. Mi dite che ora è, per cortesia? Sono 8:05. Allora mi sa che ora anche per me. Comunque dai Gianni, alla prossima, mi raccomando. Cambiati la macchina e alla prossima, buona passeggiata. Ciao Gianni G, buon proseguimento di serata. Le 8 sono, fra. Ehi capo, è passato il tempo, dai. Io ci siamo 2-3 ore secondo me. Sembra, poco fa sembra che è iniziato 5:30, può essere. Non lo so, però è volato il tempo, dai. Girando col fuoristrada, hai visto, già è passato il tempo. E quando parli un po' di cose che ti appassionano, ti vola il tempo. Sì. Ti volevo dire una cosa, adesso sono dimenticato, va bene. Roba di fuoristrada? Capo, non me ne ricordo. Vabbè. E poi tu ne fai uscite anche per conto tuo, sì, ogni tanto, qualche escursione. No, zero, perché io posti come conosce Paolo non li so, capito? Non ne so, e poi quei percorsi lì bisogna avvisare a Paolo, che avvisi i proprietari a farci passare. E ciccia, anche io, ieri ce l'ha detto nel gruppo, se oggi volevamo uscire, che avvisava un po' di proprietari di terreni e non c'erano problemi. Capano. No, io ero un po' impegnato, ero vivato, che stavolta c'avevo anche i genitori, quindi non potevo, sono un po' interrotti, non posso sbalottare così fuori strada. Li ho portati con me, quindi me li ho seguiti questi 3 giorni, me li ho seguiti un po' là. Gaba, ma poi non è neanche giornata per fare uscita con questo vento. No, prima che ne scenda qualche albero c'è qualche casino, poi è un macello. No, ma lì doveva andare a pescare, lì avrei trovato il pareggio secondo me, perché proprio mare di fuori, il vento veniva proprio dalle spalle di terra, sicuramente il mare era anche calmo. Però ripeto, no, per non lasciarli soli, questa volta me lo seguiti io, dai, visto che mia sorella non c'era. Tutto non si può avere. Poi la giornata già sarebbe andata anche bene, anzi. Ripeto, quella zona è bella da. Poi non so, Portoferro non ci va mai. No, zero. Zero. L'abbiamo fatta, cos'è? 2 anni fa ci siamo passati lì. Lì è bello, specialmente d'inverno ci fanno certe pozzanghere bellissime, non porta anche più di mezzo metro d'acqua. Lo so. E poi lì c'è una strada a Barat che ti porta a Portoferro. Sì, no, le conosco tutte lì. Tu fidati, io, prima era d'arresto. prima scendeva anche giù a Porticciolo con la macchina. Dove mettevo l'ombrellone c'era la macchina a fianco sempre prima. Così va bene. Vabbè, adesso sei sorvegliato speciale, cavolo, non puoi fare più nulla come prima. Poi prima entravamo da Portoferro, da Vinicius andavamo fino alla torre in macchina, qui si sopra. Una volta un tipo con una Lada Niva è affondato, facendo lo stupido, no? Partendo, sgommando, boh, si è seduto in terra, ha iniziato a verbare la gente, boh, lui sotto la gomma ci ha messo di tutto, tappettini, stuoi, ombrellone, nulla, è rimasto lì. Poi l'indomani, non so, la sera qualcuno l'avrà tirato fuori, qualche trattore. Invece noi tranquilli, questi Suzuchini, fino alla fine. Va bene, avevo fatto con le 900, avevo fatto da Calaviola, da Calaviola da quella strada Tagliafuoco. Non la conosco. Poi ho fatto Piscinas, non so se sei lì a, dove c'è il deserto, dopo Torre dei Corsari. Sì, già l'ho visto un po' di video. Lì, proprio chilometri e chilometri camminando nel mare, bellissimo davvero. Ripeto, io ti parlo di 30 anni fa, forse anche di più. Mi sa che adesso non ti fanno neanche più passare. Oh, se c'è poca roba, la storia che la sabbia è intoccabile. Stanno proibendo un po' di roba. No, oggi ti rovinano. Poi ormai sono tutti armati di cellulare, ci mettono poco a metterti in rete. Infatti, quello che temo sempre io. Ma meno male, da noi già siamo tutto in regola, dai, si può dire, senza fare roba strane. No, quello che facciamo noi già siamo tranquilli. E poi anche a Fiumesanto lì a un certo punto c'era il mare che entrava dentro lo stagno, d'estate aprivano per non far seccare lo stagno. E io lì passavo, guardavo il mare, uscivo dall'altra parte e continuavo ancora lungo la spiaggia. Eravamo in fondo, proprio non c'era nessuno, un deserto. Bello, bei puzzi. Sì, si è andato poi a quel raduno che aveva fatto a coso, ma che cavolo è, quello che sono entrati nella cava un po' di anni fa, forse 3 anni fa. Ma lì a Itri? Sempre con, no, questo era, no, forse no, perché era quello Land Rover. No, io l'ultimo che ho fatto è quello che ti ho detto. Poi gli altri dove li ho fatti? Buono, neanche mi ricordo. Un altro l'avevo fatto sempre a Itri, un altro percorso però. Mi sa che anche lì c'eri anche tu. Sì, quasi tutti, solamente uno o due ne ho perso io, poi per il resto ce l'ho sempre. Io me ne faccio tanti, devo trovare di incastrare il tutto, anche in base agli impegni con la signora. Però diciamo ogni tanto già mi accontenta anche lei, dai. Già far coincidere un po' di cose. Sì, io vi faccio quella Land Rover, quello di Itti, quei due che facciamo, e poi il resto che si organizza. Ne ho fatto uno anche, quello di Osilo, ma quello di Munios, 4x4 di Munios, di Osilo, però non mi è piaciuta l'organizzazione, sembravamo proprio abbandonati, bambini con i baracchini, cioè praticamente se uno aveva bisogno non poteva neanche chiamare perché la frequenza era impegnata da questi bambini, come fa a lasciare un apparato in mano ai bambini? Non lo so, ma la gente cerca, si è persa, ripeto, proprio allo stato brado. Quello di Nanni è un po' così, alla santa arrangiati, come si suol dire. Adesso ora che dovrebbero fare, non so quando c'è, quello a... non a Florinas, nel paese di Donato. Anche Florinas deve farne uno adesso, che è la prima uscita, adesso non mi ricordo come si chiama il nome, però parte da Florinas. Florinas, io ricordo non Codrongianos. No, mi ricordo Florinas, dovrei avere la locandina nel cellulare, dai. Comunque questa è la prima uscita. Lo stesso lì c'è Nanni di mezzo, quelli di Usilo. Ci sono un paio di numeri di telefono, forse ho detto anche Nanni, sì, può essere. Quindi sarà spacca macchina sicuramente. Spacca macchina, che a loro gli piace a fare queste cose, a spaccare a quanto c'è, contenti loro, contenti tutti. E poi pranzo ti devi arrangiare. Non mi ricordo, mi sa di sì, però qualche anno fa, minimo sarà un anno e mezzo fa che l'ho fatto quello di così. C'era un sacco di gente anche lì, un sacco di gente. Però ripeto, vogliono molti iscritti e poi non ti seguono, la verità, io non ho notato quello. Sì, sai perché vanno? Perché lui chiede poco il prezzo, 20 euro a macchina mi sembra, o 15 euro, non c'è l'assicurazione né nulla, per quello la gente ci va, guarda il prezzo e non guarda poi tutto il contorno che c'è. Sì, visto, noi ci abbiamo a volte anche la camionetta, quella del, come si chiama? Maracelli. Della protezione civile. Ti ricordi qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, che siamo andati verso Portoferro, cos'era quello lì? Monte Doglia, e anche loro hanno fatto quel circuito per moto, anche loro ci stavano divertendo, peggio di noi. Sì, poi c'è l'ambulanza, abbiamo tutto, loro queste cose non le fanno, capito? Noi paghi qualcosa in più, però c'è assicurazione, pranzo, c'è tutto. Ma l'ultimo abbiamo pagato una pizzeria, cosa quanto era? 10 euro a testa era? Cappa, ci abbiamo mangiato al bar a Raffaele. Caspita, cosa abbiamo fatto? Abbiamo mangiato là in quella cantina, i vini buonissimi, ci hanno dato il bianco, ci hanno dato il rosso, anche se in teoria dovevano darci solo il bianco, da mangiare, affettati, pane, cose varie, in più poi abbiamo mangiato anche a cena lì al bar. E allora, hai visto? Pasta, pecora, di tutto c'era. E piatti abbondanti, Guarda, quel sugo era micidiale, era buonissimo. La pasta, quegli gnocchetti, io sinceramente non avevo fame. No, li assaggio e basta. Beh, me l'ho mangiato due piatti con la pasta, perché veramente meritava. Buono, sì. Questa volta è stato di lusso, no? Come all'altro, cavolo, siamo finiti a... Che cavolo di paese era, che aveva mangiato la schifo proprio. E forse non c'ero lì, non c'ero. Poi senza contare anche i premi che ha dato a fine gara, l'estrazione della lotteria. E lì ha vinto, infatti li ho ritirati io, i premi di Mariano e del padre. E uno ha vinto anche uno che era con me in macchina. E cosa hanno vinto loro? Allora, il padre ha vinto, mi sembra, 2 magliette e il vino. Quando era in macchina con me l'ho teso un paio di magliette e il vino. E Mariano ha vinto un buono da spendere, forse per accessori di macchina, un buono a 60 euro, che non è poco, È andato di Russia, è andato. Fortunatamente, perché loro erano già andati via, detto, non so, posso ritirarglieli io, visto? Poi hanno vinto sia il padre che il figlio, tutti e due. Cazzo, quello è culo, eh? E uno che era con lui in macchina, con me ha vinto lo stesso anche lui. Era un po' spaventato proprio, in macchina era sempre attaccato ai maniglioni, Mi diceva, cazzo, ma qui dobbiamo cedere, ehi, tranquillo. Avevano visto quel discesone, ho detto, boh, non per la strada qua. Quello è, quando vedi poi lui, vedi solo le muso della macchina, non sai dove stai andando. Oh, yeah. Vabbè, da comunque, ci siamo divertiti. Tu hai fatto anche il pezzo hard, dove alla fine ci stavano incagliando, che poi l'hanno chiuso? No, io da lì ho fatto il salitone, era più hard il salitone che il pezzo hard. Perché io quel pezzo, vabbè, lì non ci sono andato, era pieno di massi lì, no? Sarei rimasto impiccato lì appeso. Quello sì, ha detto, c'è quelle hard, poi facevi quel pezzo con i sassi e ti riportava la strada lì sopra, dal salitone, dai, congiungeva tutto lì, che poi Paolo aveva detto cosa perché stavano bloccando le macchine, ma con quel salitone lì non puoi passare una presa all'altra, o quasi uno dietro l'altro. No, anch'io mi fermavo, dove vedevo salite brutte, poi ne avevo uno davanti con una macchina come la mia, ma sembrava che camminasse sul sapone questo qua, Io salivo tranquillo, invece lui partiva sgommando, non lo so, comunque non aveva aderenza questa macchina, eppure la macchina è uguale alla mia. Mi faceva anche preoccupare perché io vedevo lui e ho detto, ma non ce la fa lui, non ce la faccio neanche io sono anche in 4, macchina a carica. E invece io salivo bene, era proprio lui un po' impedito, dai. E quindi ti devi tenere a distanza, se no ti rischi che ti spacchi la macchina, il vetro e fai danno, rischi di rovinarti la giornata. Sì, il problema è quello, secondo la macchina che trovi a coso ti iniziano a tirare roba a destra e a sinistra e rischi di fare che ti facciano danno. E vabbè, ma per il resto già è andato tutto liscio, tranquillo, sono divertiti. Bello era anche quello che abbiamo fatto lo stesso 2 anni fa in mezzo alla pioggia. E lì ci vuole anche un po' di fortuna. La piove è ancora più divertente, eh? E questa invece è Formula 3 che mi stava spiegando a Torre, più o meno a grandi linee, dai, ti danno delle coordinate e tu devi raggiungere questo punto nel miglior tempo possibile e facendo anche meno strada possibile, così è. Allora, del tempo non ne sono sicuro se c'è tempo limite, però devi, se sono 300 km per dire, o 70 km, mi sembra che sia 70 km questo, se sono 70 km tu devi cercare di fare 70 km tondi tondi. Se poi inizi a fare 70 km e 500, allora inizia già a essere tribù la storia, capito? Invece c'è tutta una mappa da seguire che ti danno questo programma Gaia, che c'è tutta la traccia segnata e devi seguire quella, anche se magari ti fanno i furbi, te la ingarbugliano un po', no? Quindi magari rischi di perderti, ti perdi, sbagliare strada o cosa, quindi mi tornare dietro e fai strada in più. Sì, ogni chilometro in più che fai, ogni metro in più che fai sono punti che vanno a scalare, dai. E i primi tre poi vanno in Grecia, non solo vero, la finale di tutta Italia che è stata fatta questa gara. Vabbè, no, ma io sono più per le cose tranquille, da divertimento, non da ansia, sono un tranquillone io. Ehi, tanto il tracciato è quello, se è lo stesso, se lo conosci vai tranquillo e vai a occhi chiusi. Se lo conosci sì, è che non so, fino alla fine non sai qual è il tracciato, no? Loro non lo sanno, chi arriva al continente lo sa il giorno perché gli caricano la traccia sul telefono. Ho capito. E quindi loro sono proprio occhi chiusi. Se io mi iscrivo non c'ho gusto perché ormai lo conosco già. Voi l'avete tracciato voi? È così. Dove fa neanche qui anche a fare la macciotta uno? Non ho capito, scusa. Devo farmi un altro anche Macciotta, quello di Alghero che c'ha quell'88 passo lungo, l'hai conosciuto? Ho visto tanti, non ce l'ho presente adesso così a freddo, dai. Che c'ha un albergo giù ad Alghero? No, non ce l'ho presente adesso, ma se dovessi vederlo ti dico, ti direi sì o no, ma così no. Lui dovrebbe... E stava organizzando, è da 2 anni che lo sta organizzando, che ancora non si è deciso. Una specie di endurance di 2 giorni, bello. Ma dove? Qui in Sardegna? Sì, dalle parti di Alghero lo voleva organizzare, 2 giorni. Lo stesso con roadbook e questa era tipo... gare di coso, dai, ma come si chiamano? Boh, non so. Ma non mi viene in mente, comunque erano 2 giorni, quelle che fanno quelle macchine d'epoca, come cavolo si chiama, tipo la Sassari Usilo. E cosa fanno? Boh, gincana, raduni, cosa fanno? C'ha quella specie di gara, sempre a tempo, che deve arrivare in certo tot tempo, lo stesso non devi né superarlo né andare oltre né andare di meno. No, non lo so, non ce l'ho presente. No, sarebbe bene, mi piacerebbe invece fare, non so, tipo un viaggio, partire in caravana, andare, non so, in Tunisia, roba così. Qualcuno è andato da poco. Sono andati, un paio che sono venuti anche ai nostri raduni, sono andati a farsi un viaggio da quelle parti. Allora, tutti insieme, in gruppo, così, dormire, accampati nel deserto, cosa ne so. Queste sono le cose che piacciono a me, per esempio, tranquilli, passeggiate. Lì sarebbe bello andarci, ma non so poi con queste guerriglie e cose strane che possono nascere da un momento all'altro, e quello mi frena un po', eh. Io ho fatto una cosa nel deserto, lì, in Egitto, lì. Però sempre roba organizzata, ti diverti lo stesso, ma fare belle cammellate e poi di notte spegnere i fari della macchina e goderti solo le stelle, perché non vedi altro che le luci, solo le luci delle stelle, senza nessun inquinamento luminoso. Lì forse si riesce a scoprire cos'erano le stelle, che adesso non si vedono più. Sì, ok. Beh, che abbiamo fatto? Le 8:20. Dai, che ora, dai. Ci aggiorniamo alle prossime. Grazie per la chiacchierata. È stato un piacere. Alla prossima, ok? Buona serata e buona cena. Grazie Fra, ci ascoltiamo alle prossimine. Buon fine serata e buon tutto, dai. Ciao ciao. Beh, che domani si lavora di nuovo tram tram. E vabbè, beato che ce l'abbiamo questo lavoro. Alla prossima, grazie ancora. Ehi Fra, OK, a domani, dai. Ciao ciao.